Sono Prendi, contento. prendi. Va bene, va bene. Allora, amici di Facebook, del podcast e nemici di ogni orizzonte, benvenuti, bentornati con Tycoons and Dragons e Rip GDR e le sue storie e una nuova. Oggi parleremo di una nuova malattia. Quella di chi mangia quattro pizze alla sera. Allora, intanto bentornati. Oggi ovviamente. L'assalto, scusa. Chi è? Alle 9, dico, è ancora iniziato l'assalto. L'assalto verso 9 qualcosa, penso. Comunque, se vi state La chiedendo, prima pizza, sì. oggi giocheremo a un nuovo gioco in cui praticamente inviamo robe da mangiare ad Arci e Arci le mangia. Il gioco però è già iniziato. Arci, se vuoi dare il tuo indirizzo a tutta la chat e a tutto il Quindi, pubblico. se volete, allora, siccome ieri è stato il compleanno di Arci, Pubblico sono altri due. Esatto, purtroppo. Facciamo gli auguri al nostro Francesco Arcidiacono che ieri ha compiuto ben 30 anni. Merda, E oggi che vecchio di l'abbiamo merda. festeggiato inviandogli ognuno una pizza. E ora sta mangiando la quarta e ultima pizza, sostanzialmente. Però non ha mangiato quattro Forse. pizze, ha mangiato quattro pizze in mezz'ora, che non è un Ma dettaglio. questo ormai non ci stupisce. Se però anche voi del pubblico volete che mangi qualcos'altro, voi mandateglielo. Se... L'indirizzo nei commenti, no, cos'è che devo scrivere? L'indirizzo in bio. Link in bio Va bene. in sovrimpressione. In sovraimpressione, Adesso che avete fatto la pizzeria diversa, non avevo la polizia in casa. È vero. No, 4, 4 andava bene però, mi sa. 4 4 va bene. Vabbè, 4 va bene, può c'è una essere un nucleo familiare. Sì, no, certo. Può essere un nucleo Dice familiare. che in casa meno. Ma infatti Arci, per esempio, l'unico modo che ha ora per ordinarsi del cibo è ordinare da ristoranti diversi, se no non può fare. Subisce i controlli dell'antiriciclaggio. Che poi, vabbè, chi se ne frega, arrivano e dico sì, sono 6 pizze, le mangio io. Sono io. Volete entrare anche voi? Ah, non potete, però stareste vietando l'IPCM. Scusate, chiusa la porta. La pizza direttamente consegnata dalle forze dell'ordine. Va bene. Oltre a vedere Arci mangiare. Cioè, adesso io mi immagino il carabiniere che si traveste da Bangla, da Pachi, per consegnare la pizza. Questa sarà la quinta che andrà. Se prende questa, è fuori legge. Va bene, a parte vedere Arci mangiare, come dicevo, giocheremo anche alla maledizione di Catta, che torna quindi con noi, la nostra ormai famigerata campagna di Dungeons and Dragons, che arriva all'episodio numero 57, ebbene sì, Siamo saliti di livello anche. Ciao ragazzi. Un po' qualche già. tempo fa. L'ultimo? Metto in sovraimpressione Arci. Una campagna che non finiremo mai, L'ultimo pezzo finora. probabilmente. L'ultimo pezzo però. Va bene. Oltre a Francesco Arcidiacono, con noi abbiamo Giulio Bosi, Enrico Cattabriga, il nostro master, Edoardo Saladini, Marco Bosi, Ciao. oltre a me, Andrea Giacomo Vecchi e Stefano Gamberoni. Che tra Che l'altro è potrebbe o stato... non potrebbe essere essere positivo? Non è Aspetta. importante, non è importante. Come vedete, siamo ognuno nella propria location e non Scrivete nei veniamo... commenti il risultato che secondo voi avrà il tampone. Si aprono le scommesse. Vai. Ci stai, Adesso sono in giusto. regola. Potremmo fare la mascherina di Tycoons and Dragons. Ci sarà sicuro il mo, cioè, fa Ah da sì? Beh comprare. sì, Sì. figurati. Ma ci sta quella una bella barra sopra la mascherina? Potremmo farla. La lapide? Dai, per Natale. Tu giri con sta Oh. lapide? Bellissima. Per vabbè, chi non sì. capisce suona un po' male, però... Finisco di copiare sta scheda e ci guardo, Vez. Guarda, guarda come hai triggerato Salla così. Era lì che ormai che non ci credeva più nel brand, ma adesso nuova linfa vitale. È il fiuto imprenditoriale. Tu c'è ancora il logo grande, sì. Sì, io ho tutto. E i carbo per stasera ci sono, eh. Molto anche bene. Grassi, mi sa. Anche le proteine del grano già hanno fatto sforare le auto. Beh, allora, alla maledizione di Katta è un po' che non giochiamo in realtà. Sì, per cui non so riassunto chi riuscirà a fare. Fai la foto ai cartoni poi, Arci, che la mettiamo su... Mi sa che ormai è un mese. La volevo fare un po' più carina, adesso l'ho qua tutto in filo. Più che possibile. Fai la foto ai cartoni che la mettiamo sulla pagina Instagram. Beh, allora ripeti quello che dico io, Sceo. No, sulla pagina guarda Instagram. Guarda che non sentire l'olfatto. Non sentire l'udito. No. Comunque Giulio l'aveva predetto, eh. Cieco e sordo. La maledizione di Giulio. Esatto. Spin-off della maledizione di Katta. C'era un modo fastidioso per indurti a fare Instagram del gruppo. Allora, facciamo così. Tra l'altro, non ho capito perché adesso... il guru di Instagram non ha mai fatto. Oggi lo dico e, oggi e domani lo nego. E con domani intendo letteralmente domani. Se ci sarà, o meglio, quando ci sarà, ma bravo. Se ci sarà un nuovo lockdown, però deve essere un pure lockdown. Pure. No, non un lockdown che dici che è... che è un coprifuoco, però non si può dire che è coprifuoco, allora te lo metto ancora prima, così non lo puoi dire. Allora chiudo tutto, anche le case, allora le case. Ora così. Ma non è un coprifuoco, eh. No, tu puoi uscire, non c'è nulla da fare. Allora, non ci piace il coprifuoco come parola, per cui, come lo chiameremo? Accompagna fuoco, insomma, qualcosa del genere. Ma no, è un concetto proprio diverso, Rez, perché c'è il coprifuoco... tutti devono essere in esatto, qui è più il concetto casa. Della tu terra bruciata, è più terra bruciata. Più terra però bruciata. Non c'è nulla da fare, non c'è assolutamente. Avete sentito entrare. Giulio Bosi, portavoce di Stefano Bonaccini. Tu puoi uscire, sei liberissimo. Perché lui che dice non c'è coprifuoco. In realtà è quello che ha fatto ritardare le chiusure. Ecco. Ma è quello che ha fatto ritardare le chiusure che sarebbe dovuto esserci la settimana scorsa. Ci ha fatto perdere tempo, insomma. Aia, ci male. Perdere tempo per colpa sua. Eravamo lì che tecnicamente stavamo aspettando. Sì, però vabbè. Eravamo lì tecnicamente che stavamo aspettando. Comunque, allora, se ci sarà un nuovo pure, tecnicamente lockdown... prima Ginshi meno lunghe sono le misure. Ma tanto le misure vanno comunque fino a marzo, quindi no. In realtà, anzi, forse anche più avanti. In teoria, non... no, ho capito cosa vuoi dire, Giulio. Che minchia, un prima cambi il DPCM, prima ne puoi fare, esatto. prima ne puoi fare un altro. Esatto, bravo, sì. Quello è vero. Hai ragione. Saremmo molto più avanti a questo punto. È vero. Volevo fare. Una storia su Instagram, ti devo taggare chi mi ha regalato le pizze? Salla, Laz. No, io non ci sono. Non ci sono, non voglio. Vabbè, tagga i congiunti. Beh, se mi dà il tuo indirizzo ne ordino una, però io non ci sono. Comunque, no, Marco, grazie. I pure. Adesso mandiamo i dolci. Ce l'ho fatta io comunque. Dai un buchetto, no? Dai un buchetto, ti è rimasto un po' di fame, sì, no? Ancora un tacchino, pomodori, finire. Beh, no, ti mangi anche quello? No, questo è bellissimo. Imperterrito, deve mangiare la sua cena. No, si butta il cibo. Vabbè, ma non lo puoi mangiare domani. No, si lo mangio domani. Ah, così tipo, dopo aver finito tutto. Ah, non ci avevo pensato. Beh, ormai. Comunque, se ci sarà un nuovo pure lockdown, farò l'account Instagram di Titans and Dragons. Oh, speriamo. Ma siccome a questo punto tutti speriamo a un lockdown con quello di Marco, cioè. Tutti a leccare il cugino di Sceo. No, più lockdown vuol dire che però è come prima, cioè non è che tipo adesso tutti stanno a casa e non fanno un cazzo e io invece devo andare a Porto Maggiore, cioè quello non è un pure lockdown. Devi stare a casa tu, Giulio, anche tu, anche io. tu quale hai ordinato? Quella di? Ok. Io e Regina Sofia. Tu, Vez? Io Vasinico, che però lì non si è espresso, quindi sarà il pizza. Sì, è presente, quello è così. Catta, sai che Beh, stai poi condividendo comunque. schermo, vero? Io lo so. Catta, tu invece? Spoiler. Io ho Perché c'è un quella porno. con le. Catta, non si guardano i E porno in diretta. che carta vuole Quando mai? giocare? Ma ne Non fai è una vero. orizzontale, Cosa vuol dire un Arci, di orizzontale? foto. Tanto è indicativo, non è veramente quello che appaiono, Marco. Tu, Catta Berbereno? Sì. Ok. Direi che per esclusione Stefano Giù. Gamberoni. Sì. È Cubo Pizza. Esatto, È COVID, che è benvenuti al sud. COVID gratis qua. Guarda, lo dice lì, Italia di DPCM numero 250.933,6. Come posso fare come una frase carina di ringraziamento? Non lo so, Grazie. dovresti inventartela tu uno. Potresti riassumere una frase? Lo scorso No, episodio era un po' fai, è impatto. tutta qua la tua potenza. Quello ci sta. Non, questa non è nemmeno la mia forma finale. Allora, va bene, torniamo a noi. Come abbiamo detto, torniamo a giocare alla maledizione di Kat, episodio 57. È un po' che non giochiamo, io mi ricordo relativamente cosa era successo, però direi di Eravamo far partiti da partire il poco. riassunto, la musica, music. Giusto, la musica. Ecco. La musica. Esatto. Allora, proviamo a fare un Punto di riassunto di, gruppo, sì, facciamo, esatto, dai. di concerto. Allora. Eravamo partiti da poco per le montagne. Allora, esatto, perché avevamo finito la parentesi al castello di Argynvos con i paladini dell'ordine del drago d'argento e Eravamo avevamo passati dalla vinto. città. Avevamo vinto alla grande. Avevamo. E avevamo vinto alla grande perché eravamo saliti di livello, io avevo preso lo spadone ed erano tutti felici. E anche alcuni paladini mi hanno detto che ci avrebbero aiutato. E ci hanno Noi siamo seguito, portati a esatto, a Kretsk. A Kretsk sono diventati una parte, cioè tanto ormai Kretsk è metà, cioè praticamente c'è una guarnigione particolarmente variopinta tra non multietnica. morti, mongrel, elfi. Umani. Gli scagnozzi di Pietro, 13, i 13 di Pietro. Aspetta che ti alzi un po'. E quindi li abbiamo lasciati lì e poi abbiamo deciso di andare tutti alle montagne. Perché avevamo fatto un mega ragionamento sul fatto che ci vede Strad, ma poi alla fine ce ne siamo Si fregati. sono sbattuti, esatto. Siamo Bravo, ti sbattuti. ricordi bene. Allora, vedi che mi ricordo, dai, Bravi, dai. bravo, Inspiration. Sì? No, No, era. dai, l'hai detto, l'hai detto. Oh, l'hai detto. Non hai le prove. In verità sì. In verità Sì, sì, sono pieno di io. prove. Ma poi ha tirato fuori un DPCM e Esatto. niente. È un caso in cui anche verba antemano. Esatto. È vero. Assolutamente, bravo Giulio. Bene, siete andati in montagna e cosa avete Ormai trovato? parla solo latino. Com'è sto. Vabbè, Com'è dico sto dove. Trovato catta. nelle orme. Com'è sto cattapop? È una cover dei Red Hot Chili Peppers. Lo so. Comunque su Netflix c'è una nuova serie che è uscita, che si chiama Barbari, Barbari, molto bello. in cui parlano in latino i tizi. Se tu metti originale, i romani parlano in latino. Sì. Prego. Beh, com'è che si chiama quello che siamo andati a vedere? Il primo re? Ah, il primo re, vabbè, quello sì, quello... Vabbè, ma anche poi... non in originale, giù. Non ho capito cosa hai detto. Non lo so, perché io non lo so, solo, cioè, non cambio italiano, io tutto guardo l'originale. Anche doppiata è sempre il latino. Okay. I barbari parlano l'italiano, l'inglese, cioè la lingua normale. Per rientrare delle calorie basta che mangi. Magari la guarderò prossimo. Allora, sono metà. Comunque scusate, torniamo al riassunto. Non so, poi eravamo andati nelle montagne. E la prima cosa, sì, di fatto che abbiamo incontrato è quella che abbiamo davanti, direi. No, abbiamo trovato le orme poco prima. Abbiamo trovato le orme giganti di un lupo, che in realtà era più di un lupo, che però camminavano in modo da nascondere il loro numero. E poi io avevo l'aquila in giro. Io avevo avuto quella sorta di visione di dello spirito della montagna e mi sono convinto che mi stesse guidando e mi dicesse vai, stai andando bene. Invece era un richiamo erotico della montagna. Esatto. Sì, no, ha detto bene. Poi siamo arrivati dalla porta dove c'era una fiamma verde, ci siamo avvicinati. Mm-hmm. Ma Marci sta mangiando? Boh, ci sta per sgrassare un po'. Esatto. Cosa devo fare? No, sei... Cosa devo fare? Forse mangiare, cioè... Non ho capito. Si è avvicinato al cancello, poi credo che Atanas abbia lanciato una freccia e dei demoni sono animati. Ma lui lo fa per il distanziamento, perché così non vanno in quattro a mangiare, mangia lui le cose per quattro. Giusto. E il distanziamento, giusto? È vero. Quando a lui, a bambino, gli dicevano pensa ai bambini in Africa, lui ci pensava e gli diceva non avranno mai il mio cibo. Non avranno mai cibo in assoluto. Tutto mio. È stato traumatizzato al contrario. Ecco i primi pazienti che mi scrivono le infamate. Le infamate. Tu non ce l'hai privato di questo. Posso tutto. Arci che perde pazienza. Ah, chi è quello schermino? Sassate questa musica. Sì. Stiamo sentendo la radio. Carta, stiamo sentendo la radio. Yeah. No, è il solito disclaimer. Cosa menzioni? Like. Cosa menzioni? È una storia hai fatto. Sì. Sì, poi mi ricordo che siamo arrivati davanti a questo cancello dove c'era questo fuoco verde. Qualcuno si è avvicinato, è entrato, sono arrivati due demoni, cioè due statue, sono diventati dei demoni. Perché l'hai sparato, Giulio? No, io avevo incoccato le frecce, ma non ho per una volta, l'unica volta che sparate. È stato quando quando qualcuno ha provato a volarci attraverso, da scavalcarli in volo. È vero. Arci era trasformato in aquila, aveva provato un patca. Ma stranamente non hanno attaccato Arci. No, uno sì, però Arci gli ha avvocato tipo 25 aquile davanti. Con Ehi, il mio nome sopra. Quindi abbiamo sconfitto i due demoni. Si sono aperte, si è aperto il cancello dove c'era il fuoco verde e da dietro arrivava qualcuno, tipo, però non mi ricordo. Esatto, avete sentito dei rumori provenire alle vostre spalle e non era lo spadone del capitano dell'ordine del Drago d'Argento. Pezzi. Comunque c'erano così tanti pizzaioli che stai attento. Delle termopili di Rathmen. Cosa hai detto? C'erano così tanti pizzaioli di fila che sembrava la scena delle termopili di Rathmen. 299 più 1. Invece degli scudi avevano così per prendere la pizza nel forno. Come hanno fatto a passare dal passaggio segreto? Era sorvegliato. Hai lasciato passare un esercito? No, sono solo arrivati delle pizze. Con le pizze. Credevo ci fosse una festa. Bene. Ok. Devo andare di là che serve la scheda, immagino, vero? Dipende. Allora, quindi basarci come vuoi. Ricordatemi la situazione, ma quindi li abbiamo già sconfitti però, no? Sì, i due demoni sì. I due Vrock con la dobbiamo doppia capire V. Come passare, giusto? Sono morti. Ma io so, io Cantas mi sono l'ho passato io, senza problemi il cancello, no? Non mi ricordo. Mi ricordo no, che cioè, tu quando avevi cercato di passare eri stato attaccato ai Vrock, poi ci hai salutato e quindi... E avevi evocato degli stormi di aquile per combattere al posto tuo e quindi te ne stavi in un angolino a mantenere la concentrazione. Giusto. Comunque, a parte il vento che sferza sui le pendici della montagna, non c'è nulla che ti impedisce di volare attraverso il cancello. Invece chi viene dalla strada si trova di fronte a sé prima una grata, quindi il cancello quello a levatoio, penso si chiami. Il cancello levatoio. Che non mi ricordo, allora vediamo. Una grata? Mm-hmm. Prego. Sì, il cancellone. Sì, è molto grata. Sì, se a quando qualcuno si avvicinava, è vero, a 10 piedi di distanza, con un cigolio metallico, si apriva da sola. Dietro di questa, quindi altre 10 piedi, c'era una coltre di fiamme verdi che coprono il passaggio. Ma fanno caldo queste fiamme? Sì, molto caldo. Adesso parte la descrizione delle fiamme, vai. No, sono delle fiamme verdi. Ho capito, tutti con ornamenti. In chiaro stile Liberty. Di quel verde però tendente un po'... Al viola. Qui ci sta un... De natura, no, un religion. De natura mi è piaciuto. Un arcanal. Sì, ci sta più un arcanal, però io... No, de magia. De magia... Sì, ce l'ho io e sono lì davanti. L'augure poi, meglio che lo faccia lui. Allora, tirate non l'iniziativa. Vero, no, ah, minchia, allora mi sa che non lo farò. Contro le fiamme. Per vedere chi fa prima che cosa. Cosa per malone. Vediamo. No, vabbè, può farlo bene, cioè... Possiamo anche agire in contemporanea, esatto. Sì, sì. Tanto invece... sono cose diverse, tanto. 13. Vai, poi non credo che quando tu lo fai, io no! 17. 17. Ragazzi, fai il tuo solito... Per l'iniziativa? Sì, ha detto tirate l'iniziativa. No, raga, non fatemi sprecare un tiro per l'iniziativa. È la classica situazione da meme in cui quando state decidendo e lui dice tirate l'iniziativa. 21. Wow, race. Hai fatto uno, Vett, grande. Non ci iniziativa, raga. Ormai sono settati per l'iniziativa i miei dadi. Che spettacolo. Dovremmo fare un video con tutte le volte che ha tirato l'iniziativa a Vett. Ma secondo me è tipo così, tipo voi adesso... Svelate tutto il mistero, combattete, poi passate. Io sono queste fiamme potrebbero. Sì, allora, io riconosco ora. Ma perché tu sei saggio e vuoi vedere bene la situazione prima di agire. Sono lento, rega. Sfortuna. Io sono tipo lì che faccio. Perché adesso intanto tipo il combattimento è iniziato. Ma che cazzo? Perché tu vuoi provare a parlare? Perché io... Sempre, no? Il cancello è aperto, giusto? Il cancello si è aperto quando il primo di voi si è avvicinato, tipo fotocellula. E le fiamme non ci sono più. Le fiamme no, ci sono ancora. Ma c'è scritto solo entrata, resta... solo uscita? No, perché adesso col decreto bisogna... Resta aperto o poi si chiude quando uno passa il cancello? Alle 18 si chiude. Per adesso no, nessuno è ancora passato attraverso, però una volta che si è aperto è rimasto aperto. Forse si è aperto perché sono le 5. Posso fare un investigation per capire meglio come funziona il cancello? Sì, ma prima ti chiedo quanto hai fatto di iniziativa. 16. Stavo detto mi sa non che avevo Giulio sentito. Più forte Giulio. Sala è più forte ancora. Bosi Maior maggiore di minor Cessat. Ok, Pat, che iniziativa? Ok, finito di copiare. 18. Tutti lì. Ehi. No, Kat, aspetta, fammi almeno tirare il dado. Ma non ha tirato. Madonna, quanto tifo cusso stasera. Mandagli un'altra pizza. Tra l'altro non posso perché vola. Voglio un altro cibo, dai. Mi diverte questo gioco. Quando mi annoio, tipo... Questo gioco casa, lo faccio lui. Tipo nel lockdown, mi immagino. Tipo, solo io non faccio niente. Mangio del cibo ad Arce. Coglionazzo. Allora sta con questo cibo. Poi se lo mangio. Beh, nel frattempo io mi sa che cambio connessione. Vediamo se va meglio. Cosa? Un attimo, uno mi tiri un di 20. Cosa? Perché dal cellulare 13. 13 più 3, 16 di iniziativa, Kat. Visto? Mi tira a tiro alto quando non è la tua. Ottimo, bene. I dadi ci sentono. Eccoci qua, bene. Mentre pensate su cosa far, sentite un rumore provenire dalle vostre spalle. Mi nascondo. Tra l'altro sta pure prima a te. E quindi io sono io lo sento. Il streaming è ancora in corso. All'inizio sentite quello che può sembrare un ringhio non gattuso. Bensì... Esatto. Quello di non dirlo a Sceo che ci rimane male. Il suono di una bestia che ha trovato la sua preda. Ah, ringhio gattuso. Dopodiché quando trovava gli stinchi del il vento porta via questi suoni e si sente un attimo di silenzio, o non si sente a seconda di... Ma che tipo di bestia era? La riconosco. Non vedete. Vi ricordo che la nebbia e le nuvole basse occupano la visuale a 30 metri di distanza. No, ma chiedo se riconosco 30 piedi dall'udito. Non hai mai sentito qualcosa del genere? E dopo un po' non si sente più. Abbiamo perso Giulio. Ma... Ah, catta, pure non io mi sono frezzato perché sta nuova telecamera la prende e la perde in continuazione. Adesso dovrebbe averla ripresa. Sì, non è una cattiva telecamera, magari... però. L'ho comprata all'Amazon con il Prime Day, era in sconto. La volevo dare alla Mickey, ma da lei non funziona, quindi si è presa la mia. E anche il nostro microfono finalmente va. Sì, ho scoperto che c'è un bottone qui dietro. Sì, che premi... Alla grande. Oh yeah. Solo che ribalta l'immagine. Cioè, sia la rotella del volume, sia quella del muto, che quando è premuto entra dentro e non si vede, quindi è stata una scoperta. Tornato. Che due maroni. Mentre Giulio è un avatar. Oh, eccoli tutti, primo... grande, no. Va bene. Flippa l'immagine. Yeah. È strano. Ok, dopo un attimo di silenzio cominciate a sentire delle scosse del terreno. E dal vostro lato sinistro, guardando il cancello, alcune masse di pietra si staccano dalla parete e vedete dei cumuli di neve che si spostano e si muovono alzandosi e abbassandosi come se ci fosse un po' come se fosse un grosso vermone che sta passando sotto la terra. Il punto che ne vedete più di uno e non sapreste dire effettivamente quanti, perché mano a mano che entrano e escono dalla coltre di nebbia il loro numero è indeterminato. Allora, secondo me non sono tante informazioni, torniamo a casa. Andiamo a riportare a Roma. Perché non può mai essere una cosa semplice? Quindi ci sono sti vermi che girano sotto di noi. Cosa fate? Race. Sono sotto terra. No, voi non li vedete. Sentite la terra che trema e questi cumuli di neve che si spostano ogni tanto. Mi comincio a piegare sulle mura. Ok. Con gesti molto acrobatici e molta tecnica destrezza. Okay. Ma i cumuli sono la parete... sinistra, non sono sotto di noi, giusto? I cumuli sono ai bordi della strada, sia a sinistra che a destra. 18. Con svantaggio, per favore. Tanto uguale, vero? Non lo so, posso dire. No, ho fatto meno, 11. Ok, ti spiace che contro la parete? No, scherzo. Riesce a salire di poco, ma non abbastanza per scalarla. Scusate, vi ho disposto a caso. Avete delle preferenze? Beh, l'unica cosa sì che salirà più avanti. Però per il resto direi che... E poi non mi ricordo dove avete combattuto. Immagino che Pat che sia tipo... Fate una sfortuna qui così. Ok. Bene, Vardistran. Il muro di fiamme. Quanti punti feriti? Come Vardistran? Non tocca a te, volevo dirti una cosa. Rispondo a Giulio. Il muro di fiamme copre il passaggio. È tipo un piccolo portico che va dal cancello all'entrata, allo spiazzo qua. Qui dovrebbe esserci anche l'immagine, un po' tagliata, comunque qui dovresti vedere come è fatto da davanti. Quindi alto come lo spazio della porta. Esatto. Vabbè, alto tutto il passaggio, diciamo. Mm-hmm. Okay. Allora, cosa stavi chiedendo, Vardistran? Non stavo chiedendo nulla, mi sorprendevo del fatto che tu mi stessi interpellando. No, tu stavi per dire una cosa, Vardistran. Io stavo per dire che da sotto i piedi di Vardistran si apre... si apre una voragine... La vedo e vedete spuntare questa specie di vermone sotterraneo tipo Sarlacc o vermone di Dune. Vabbè, ma io giusto finisco per... dentro. Speriamo come quelli di Dune che sono veramente grossi. No, è per dire nello stile. Non è una cosa che si vede normalmente. Diciamo che vi può ricordare come fisionomia e come stazza quelle di un bullet, però di fatto ha i caratteri tipici della non morte. Quindi immaginate questo vermone che spunta dal terreno con la carne a brandelli, in putrefazione, e creste osse e cose brutte. Prova a dare un morso al caro paladino. Direi nero con stemma bianco, Vez, però, ovviamente. Sì. Che cosa? Il logo. La mascherina. Ah, sì. Secondo te Sala sta giocando a D&D? Andiamo. Guarda che la maglietta che stai indossando, Sceo. Guarda che sulla mascherina è il simbolo della, della, della lapide in questo periodo. Eh sì, infatti sì, è un po'... magari quella col simbolo del RIP GDR. No, no, sti cazzi. Voglio la mia cazzo di tomba, ma centrale però. Centrale, no, aspetta, centrale è complicato però. Voglio la mia cazzo di tomba, è bellissimo. Sul lato i loghi. Ma sul lato, di solito è piccolino, solito. Però piccolino non si capisce. Sì, è molto piccolo sul lato, però si schiaccia. Scusatemi, facciamo un giro di classe. Così non vi rompo sempre i coglioni a chiedervelo. C'è la luce, quindi 17. C'è la luce. Sì. La baciuma. Sì. Ah. Lo so, lo so. Sembrava tipo una lampadina accesa. Race? Anche quella. Conta. 17, strada merda. Perché se conta abbiamo anche quello. Dice Atanas. Io? 19. 19, sfortuna. 14 con la maledizione, 15. Ok, Patk. Comunque è una benedizione, non una maledizione. Ha ragione. Punti di vista. Sono d'accordo. Garrosh. Anche da me c'è la luce, quindi diciamo. Bene. Non so, io ho una maledizione, non so se conta. Tutti ce l'hanno. Ah no, intendevo un altro. Non so se vi dà dei malus nel gioco, anche se in realtà al momento io sono aquila, no? Non mi ricordo. Tu stavi controllando le aquile, però sì, ero ancora aquila, sì. Quindi è ritornato nano, hai invocato le aquile e sì, poi sei ritornato aquila. Ok, no. E allora faccio prima a guardarci io, perché sarebbe dovuto tornare, no? Per evocare le aquile da una forma animale non puoi farlo? No, non posso evocarle. Mi ricordo che Barato, mi ricordo. E io mi ricordo che è ritornato nano per lanciare l'incantesimo. Allora mi sa che sono rimasto nano perché non mi ricordo. Allora poi era stato nano, non era stato nano. Sì, sono rimasto nano. Ok. Da nano quanto hai? 17. La luce. Quanto hai? Quanto hai? 17, catta, uno scudo di legno, l'armatura, la destrezza. Okay. Bravo. Bene. Quanto hai? Quanto hai? Dai. Dai. Ok. Atanas, quindi il morso ti colpisce. Vediamo. A me. Non stavo attaccando... Ardi stranuffa. Ancora questi nomi, dai. Confondo sempre. Una volta li avevo imparati, poi adesso... Ma non sono neanche simili. No, è 17 la mia classe armatura. Sì. C'è la luce. Ho segnato 17, infatti. Ma la luce non ti salverà. Ma poi se lui ti morde... Sono frizzato di nuovo. E ti prende al buio. Ci sei, gatta. Ci sei? No, ci sono, ma ero frizzato prima. Vabbè, allora, quant'è che toglie sta merda? Ma io ho dei danni? Perché la gente è tornata ad intasare la rete durante la nostra fascia oraria. Esatto. Ah, è vero, come siamo messi a punti ferita? Fai un riassunto, Giulio. Siamo messi tutti abbastanza bene, a parte... Race, che ha perso 15. Allora, io nella diretta posso creare degli obiettivi. In realtà mi sto bene, perché di solito... Ward, Vardistran, che ne ha 62 su 86, e tutti gli altri a posto. Ok. Vardistran. Ok. Vardistran. Perché c'è abbreviato in Vard. Sì. Ok, il suo morso ti infligge 17 danni. Però io e avevo, poi scusate Giulio, non mi ricordo niente, Ma è 62 meno 17 adesso. Però, sti cazzi. È tipo il morso di Arci sulla pizza. Vabbè, e poi torna sottoterra. Ci penserò tra mezz'ora, quando sarà il mio turno. Tra due morsi, dici? Invece, esatto. Lui torna sottoterra, quindi puoi usare la tua reazione se vuoi. Anche se non ho ancora mai agito? Ma penso che considererò in continuità con lo scontro precedente. Allora gli tiro una spadisciata. No, scherzavo, una spadonata. Critichino, ventello. Bravo, Vez, buttaglielo. Che sculato. E posso usare anche il mio potere. Sì, sei ancora incantesimo. E come? Come se Master ti regala un attacco e tu lo sfrutti appieno, bravo. Cosa serve l'iniziativa alta quando puoi agire nel turno degli altri in questo modo, eh? Non so se usarlo di primo o addirittura di terzo. Ma questo lo raddoppio? Beh, non ho... Ah, è vero, hai un D8 in più. Non è ti conviene massimizzare tutto così per farlo il più potente possibile che ne sbanchi uno, magari. Visto che sono farlo di terzo, dici? Di terzo dici vuol dire... che sono tre, Gar. Di terzo vuol dire che di base sono 4 di 8 più 1 di 8. Quindi 5 di 8. Cosa io dici, raddoppio Marco? I danni, giusto? Dadi. I dadi. Tutti i dadi. Tutti? Tutti i dadi, tutti non i modificatori. Tutti i dadi, minchia. Quindi cioè, da 5 ne tirerai 10 di 8. Esatto. Facciamolo. Facciamolo. Vai. Hai abbastanza dadi? No, assolutamente no. Sì, dai. Beh, intanto potrei tirare di 6. Che da 2 diventano 4. Arrivo. Ritiro gli 1 e 2 tra l'altro. Questi stanno qua. Cattra, le mie aquile sono ancora vive. Penso che siano morte nello scontro con i rock. Raga, io lo vedo un po' affamato, lo vedo un po' sciupato. Sì. No, aspetta. Vedi che si mangia le unghie. Ah, perché... cazzo. 25. Merda, comunque ho 30 anni allo stomaco di quando ne avevo 29. 35. 40, 47. 50, 56. 61, 62. Più 7. 69 danni. La prossima volta che ti sento lamentarti del druido. 69. Quali gobba? Devo fare un pochino meglio. Bene. Gli dai tipo come si chiama il gioco delle talpe dove col martello le rimandi in guacamole. Guacamole, esatto. Tipo così, viene fuori, gli dai una martellata e ritorna dentro il buco. Bene. Athanas. Però è vivo ancora. Catta? Sì, è ancora vivo. Quindi sono sti vermoni ai lati. C'è il muro di fiamme davanti a noi. È che finché non escono non li colpiamo, quindi boh. O si prepara l'azione. Che appena esce si attacca. Io provo ad avvicinarmi al muro di fiamme. E fin dove arrivi? Fin dove non mi fa male. Vez, com'è che si chiamava la tua pizzeria da quella ordinata, che non mi ricordo il nome? Vasinico. Basilico? Vasinico. No. Quello... Vasinico. 20, 30. Quello Gargamelli. Sì, ok. La sarai stato anche tu. Sì. A questo punto arrivi fino al punto in cui il calore è ancora sopportabile, più in là è troppo caldo. Ok. Metto a scaldare un marshmallow. Vado avanti, cosa? No, posso preparare un'azione adesso. Sì, hai usato il tuo movimento, ora la tua azione. Quando un vermone sbuca gli sparo con l'arco. Ok. Qua. Sfortuna. Quanto è alto il muro? Adesso te lo dico. Allora, i muri intorno al cancello sono 20 piedi, il gatehouse, che in italiano sarà bastione, è 30 piedi. Ok, quindi Torrione, bravo. Mi muovo attaccato al muro. Casa cancello. E dico, il mio lavoro qui è finito. E uso Misty Step per trasportarmi. Dove? Sul muro. L'ha visto giocare devo vedere il punto per usare Misty Step. Sì, devi vedere il punto, quindi puoi andare sul muro. Okay. Ah, ti sto. Cosa ho fatto? E divento un gigante. Sei un cavallo adesso. Ok. Arrivi sul muro dove stavano le statue che... È molto minore. Il mio lavoro qui è finito, esatto. E preparo... Non hai fatto niente. Hai ancora un'azione, sì. Preparo un Eldritch Blast. Sì, un Eldritch Blast. Qual è il trigger? Vermoni che sono, direi, guardo se vedo movimento sparo. Ora ecco, mi ero sparito. Cut il mio turno, visto che ho fatto 16. Esatto, sta proprio per iniziare quando compare un vermone dalla parete rocciosa di fianco a te. Ti ha mai detto che ero di fianco a una parete rocciosa? Quindi io quando vi ho posizionato in quel punto e vi ho detto vi va bene. Hai presente l'immagine di profilo di Katta? I win, è semplice. Atanas. Ah, ok, ma devo vedere. Ah, non avevo guardato questa immagine di merda. Atanas e Sfortuna possono utilizzare la loro azione preparata. Ma io sono un botto avanti lì, cosa ci faccio lì? Posso fare un solo attacco, posso fare due? Perché vi ho di nuovo scambiati con... È un'azione, un attacco, con l'azione preparata. Che schifo. Niente, mi sa che l'ho mancato, perché ho fatto 3 più... Più... 3 più... Quanto? 3 più 6 e 9, mancato. Sfortuna, l'hai tirato su Roll20? O sono quelli dell'altra sì, volta? Sì, però Eldritch Blast ha due colpi. Sì, quello... Ha due raggi. Quello li spara con un'azione. Ok, quindi uno fatto 12, l'altro 25. 25 colpisci. 14 danno. Ok. Questo non era ferito, quindi non ha il bernoccolone che gli ha fatto Vardistran. E ritorna dentro. Patka, hai un attacco di opportunità. Patka è stato mancato. Non l'ho neanche attaccato, me ne ero scordato. Grazie per avermelo ricordato, Giulio. Tardi, qualcosa che non torna. Pat che è stato mancato. Sarà meglio. Vez, dimmi. Schiaffali un colpo d'ascia a questo infame di merda. E poi anche al verme. Cosa? No, tira un attacco con l'ascia. Non puoi tirare tu, devi... Ah, io devo fare, ok. Un di 20? Sì, perché per gli altri tiri alto, allora... Esatto. 20! 2! Perfetto. Si può avere tutto. Ah, no, aspetta. Questo qua è attacco di opportunità, però, Kat, vero? Sì. Ah, ok, allora ho fatto bene, Vez, bravo. Ora tocca a te. Esatto. Come si è messi questa qua la mappa, giusto? Aspetta. Il verme è vicino a... Uno attaccato Vardistran e uno attaccato te. Ma quello vicino a me dov'è? È tornato nel tuo buco. Ma da che parte è uscito? È detto dalla roccia, quella di lì. Da qua. Dalla roccia, sì. Quanti sono? 3, 4. In realtà potrei usarne solo una e potrebbero essere 10.000. Per quello che sapete. Allora, io faccio... Però ci siamo accorti che comunque era un altro questo. Sì, sì. Sì, questo sì. Quindi se cominciate a etichettarli prima o poi. Quanta vita ha Atanas? Quando mai ti interessa bene? Garro alle spalle. Garro, quanta vita? Sì. Garro sta bene. L'unico che non è messo benissimo è Vardistran, che ha 45 e 76. Ma ho ancora Leonens pronto. E hai ancora dei smite, Duvez? Sì, ho 4 di primo, quindi uno di secondo e uno di terzo potenzialmente. Quindi fai scossare l'albero delle noci? Ma adesso comincio a usare quelli di primo, mi sa, perché... Ok, allora io trasformo Sceo. Sì, sì, fai usa loro come animali. In un tirannosauro. Come azione. Quanti punti il tirannosauro? È Sceo o Giulio? Sceo. Io. Sceo. Allora. Cioè, a meno che non voglia Giulio, che però deve tipo, mentre sono lì che sto per castare, comincia ad alzare la mano sotto al cancello. Io scegli me. Cioè, cioè dipende come siete messi voi come equipaggiamento e chi fa più danno se lo lascio. Minchia, il tirannosauro nelle nevi. Quanta vita ha il T-Rex? Quanto l'ha vinta Arci questa campagna? Te lo dico, lo sto cercando. delle nevi. Ah, 136 punti ferita. Okay. Un tirannosauro. Come 136? Che schifo fa? Sì. Beh, insomma, cambia. Metti un diplo dopo. 118 in totale. Siamo uno stegosauro. No, beh, lo lascio. Metti un capodoro. Però ha forza 25. Quindi direi... Sì, no, infatti fa più danno. E poi corro. Con lì di fianco a Giulio. Che sfiga, non posso fare i due attacchi contro qua. Lo stesso bersaglio. Aspetta, Katta, mi sono perso una cosa. Lì non c'è niente di male, no? C'è una coltre di fuoco verde che se vi avvicinate di più vi fate male. Vi bruciate. Però lì non mi dà fastidio, no? È l'ultimo punto di tolleranza prima di scottarsi. Ok, sto lì. Chi tocca? Posso mettermi Katta sulla difensiva? È un'azione. Un'azione completa. Quindi, scusa, sfortuna non è riuscita a passare il fuoco? Sfortuna si è teletrasportato sul muro. Ah, non voleva andare fuori dall'altra parte. Vi ha fatto una pernacchia a tutti e si è tolto dai coglioni. Per mettersi sulla difensiva si usa il dodge, che è un'azione che tu hai usato per lanciare l'incantesimo. Tra l'altro, eri qua, non avevi abbastanza movimento per arrivare lì. Sei qui. Sì. A te lo dico. Garrosh, sei un tirannosauro. In questo con l'intelligenza di un tirannosauro. Esatto. Minchia, anche più intelligenza del normale, pazzesco. Esatto. questo momento non c'è nessun bisciolone fuori, quindi posso fare solo una cosa, che è preparare l'azione. Mordo appena ne vedo uno a portata. Mordo la prima cosa che vedo. Arci. Ah, comunque, lo dico per onestà, Master, io ho due attacchi, ma non posso farli contro lo stesso bersaglio, perché sono coda e morso, ed effettivamente un po'. Bravissimo, non è un T-Rex contorsionista. Bene. Ho sempre la precedenza al morso, perché fa più male. Non è di taglia media o inferiore, però se ti attaccano da una parte o dall'altra. Ma questo auto nerf che ti sei fatto, Shoda, cosa è dovuto? Visto, boh, così. Sono un po' debole. Mi spiace. Prossima volta ti trasforma in un gorilla corazzato. Esatto. No, okay. E domanda, non è taglia grande, non è media, vero? T-Rex di taglia media? No, il verme. Il verme è di taglia grande. Ok, perché se era medio inferiore potevo afferrarlo con morso, ma immagino. Però è un verme, se lo prendo di lato... No. È un bel vermone, è bello grosso. Okay. È turgido. Ne spuntano altre due. Come, scusa? Tutto a posto. Quindi, T-Rex. Usa la tua azione preparata. Ok, quindi gli diamo un bel morsone. Faccio 23. Colpito. E 4 di 12 più 7. Ah. Dire che sono almeno 4 questi. Devo fare del metagame. No, non è del metagame. Non è ancora finito il turno. È metagame. Ho tirato... altissimo. Cioè, va bene che io sono lento, però quanti turisti stanno andando? 40 danni. Minchia. Porca troia. Vabbè, la media è 33. Ho tirato bene, è uscito in 40. Che merda. Domanda, se adesso me ne rispunta un altro dall'altra parte. La cassa armatura è 13. 13, bravo, ti colpisce. 13. Dai. 15 danni. Va bene. E se ne torna giù. Non ho l'attacco di opportunità. No, già perché la tua reazione, esatto. L'azione preparata vale come reazione. Usa la reazione, esatto. Ah, ok. Quindi è inutile preparare l'azione. No, perché ti può essere più utile magari colpirlo prima di essere colpito. Ah sì, hai ragione. Ha fatto preoccupare mia madre. Però... Mi ha scritto su WhatsApp, fa tutto ok con le 4 pizze. Chi questo? Mia madre. Tutto ok, Arci. Ma... Che carino. E quali pizze? Eh? Quali pizze? Ma... Se il rasato non avesse avuto il sughino, non staremmo parlando di questo. Se dovessi rispondere una roba tipo hai ragione mamma, sono stati poco generosi, ho fame. No, tipo ho fame. Bene. Aiutami. No, non capirebbe. Patk, quello che spunta di fronte a te ti dà un morso e ti fa 18 danni. Sì, sto gran cazzo. Io c'ho un T-Rex davanti a me. No, non è dietro. Non puoi fare nulla. Hai già usato la reazione. In realtà lui l'ha usata prima. L'ha già usata. L'ha usata prima del suo turno. Forse Race però da lì ci può arrivare. Race è aggrappato alla parete. Ah, allora. No, Arci la reazione ce l'ha, quindi quando si inabissa di nuovo può provare un attacco d'opportunità. Perché, scusa, quello non ha fatto quel tiro che ho fatto io. Lui l'ha fatto prima del suo turno e poi è stato a lui ragione. E quindi l'ha recuperato. Te lo tiro, Arci. Devo tirare la concentrazione, no? Sì. E poi se vuoi... reazione diversa e Arci con mezzo regalino. Quale vuoi per la concentrazione? Sono merda tutte e due. Bianco o blu? Blu. Pensavi blu... Te. È la concentrazione. La pillola rossa. Dai, Vez! Nella tana del bianconiglio. Hai scelto male. Aspetta. Quante... No, in realtà forse lo passo, perché io ho 5 di costituzione, 4 di proficiency. Quindi e basta, credo. E basta. A me che non hai fatto uno. Esatto. 10. Ho fatto uno. C'è un T-Rex in meno. Devi fare... No, perché è fallimento l'uno. Ah, è automatico. No, no, no. Per la vita no. Nella costituzione però non no. Aveva senso fa... tirarle allora. In tiro salvezza no? No, no, in tiro salvezza no. Non è un tiro. Non è un tiro salvezza. No, un tiro salvezza. Non è un tiro salvezza, questa è. Raga, qua si chiamano tiro. Chiamano tiro. No, è un tiro salvezza. Piano però, perché c'è il più uno della luce che non hai considerato. Ah, anche... ah, è vero, c'ho anche le bazze tue, Vez, ma non più tre. E sei vicino a me? Più tre di Vez, no, se sei praticamente adiacente. Non sei vicino a me. Livello basso. C'è sempre stato adiacente. Però hai il più uno però della il luce. Più uno di... Se dici strad merda, è il più uno. Quindi strad è 11 merda. Comunque. 11 passa. Allora non aveva neanche senso tirarlo. Ma perché tu non sapevi perché... quanto avevo di più, e nemmeno io, quindi bravo. Bravo. Perché la metà del danno subito 10, quindi la metà del danno subito sarebbe stato 9, quindi è 10, la difficoltà era 10. Allora, 10 più. Allora... Sempre che non sia fallimento l'1 però. Ah, è vero, però, salvezza. Io ho fatto 1. Non è fallimento, raga, nelle prove. Forse il tiro salvezza sì. È un tiro salvezza. Vediamo cosa dice Google. Perché accappatoio messo tu hai? Io sapevo che in queste qua di costituzione non era fallimento automatico. Perché è una prova, non è un tiro salvezza. Vediamo. Perché è concentration. Concentration che cazzo è? Mi sa che l'abbiamo sempre considerata come prova. Allora, cos'è la concentrazione? Era una prova nella 3.5. Ma forse neanche lì, sai? No, ma l'1 è fallimento automatico. No, lì è una prova di concentrazione, ce la devi tra l'abilità, la concentrazione. 7 throw. Constitution 7 throw. Constitution 7 throw, grazie, grazie. E poi esatto. Bisogna vedere il 7 throw, ma penso che abbia il fallimento. Qui sì, tiro salvezza e fallimento 1. Cioè. Quindi mi spiace, Arch. Controlla, cazzo. Hai scelto il tiratore sbagliato. Vabbè, quello non avevo dubbi, Sceo. Vez, era un bel tirannosauro, ma l'hai detto Vez. Vabbè, lo puoi fare, no? Non tante volte, però. È tipo solo un paio. Seven throw. Ha dato un morso da 40 danni, però. Comunque nell'altra campagna, con l'altro master, non è così, quindi... O se l'ha inventato lui? Adesso cerco. Qua non lo dice per la verità. Beh, intanto arrivo. Non lo dice. Ma scusate, non è un'abilità? No, è un tiro salvezza. Sulla costruzione qua. Comunque, l'uno come fallimento automatico... È negli attacchi. Non solo per gli attacchi. C'è solo negli attacchi, esatto. Nella quinta edizione... Come il 20 critico, il 20 successo, in teoria c'è solo negli attacchi. Esatto, quindi siamo a posto. Quindi c'è il tirannosauro, non può mancare, a meno che tu non becchi molti danni. No, l'uno fallimento automatico c'è solamente, cioè, non c'è nella quinta. Non c'è. Pensavo, ma non c'è. Pensavo che ci fosse, invece. Anch'io, ma non c'è. Welcome! Questo vuol dire anche che non c'è il 20 successo automatico. Però. Questo vuol dire anche che Kat è molto stanco stasera. Quello sempre, ho finito perché alle 7:30. Una volta sarebbe stata, in effetti in pagina 12 in cui dicono questo. Sono un po' arrugginito. Sono finiti quei tempi, mi sa. Però adesso ti so dire tutti i paragrafi dell'ISO 13485. Tu dici e io dirò. Sì. Anch'io okay. So che l'ISO bene, è meglio Arci. Tenerlo sui 200-400. No, veste buonino, mi sa che ti passo il... Ho tirato due passi, vuol dire che la il prossimo è fotografica. La macchina fotografica. Guarda, sicuramente. Vardi stra. Deve tirare la reazione. Che reazione? Ah, se vuole, se vuoi un attacco di opportunità, Arci. No, no, sparisci verme. Ah, è vero, è un tuo amico animale, quindi. Sta a me. Tanto tirerebbe uno quello handicappato. E io però non ho vermi vicino. Già. O non che tu sappia. Magari è proprio sotto i tuoi piedi. Beh, intanto mi raggruppo. Come no? C'è Garrosh lì? Vicino ai miei amici, lì in mezzo tra Race, Coso e... No, un po' più in là. Atanas e... Lì, tra i miei amici, dai, Ciccio e Frankie e... Atanas e Patk. Qui va bene. Sì, lì sono tutti vicini per i miei punti in più, se vogliono. Ripetimi, quant'è 10 piedi? 5, mi sa. Oggi è successo al bar da un cliente abituale. Ero al tavolo un po' distratto. Mi fai un caffè, Coso, Stefano? Tutto bene, grazie. Coso, beh, si sa nel tuo nome, dai. Beh, vabbè, non è scontato. O prendi dentro Race o prendi dentro Patk nella tua aura. Prendo dentro Patk. Saggia decisione. Perché Race mi sa che se ne va tra un po' dalla, comunque. Dalla e soprattutto perché tu tiri uno, Vez. Cosa la fai? Mia reazione, cioè se uso un'azione adesso non la posso più usare, sì. Se usi un'azione adesso, prepari una con un... No, nel senso, io voglio usare Leon Hands, che è un'azione. Dopo però ho esatto. Comunque la reazione, o no? Hai comunque la reazione, ma quella ce l'avresti in ogni caso. Eh no, questo voglio capire. Va bene. Però quanto... non è preparare. No, non voglio preparare. Ok. Quanto ho di punti ferita? Mi perdonami, Giulio, 57, no? 52. Secondo me Giulia non lo so. 45. Quanto? 45. Sì? Ok, allora farò un utilizzo di 40 punti di Leonenz. 45. Il suo labiale è arrivato dopo. Me ne mancano 20 secondi, però. Very good. Questo era Vardistran. Race. Allora, voglio fare un tiro di arcana sulla fiamma, sul falò. Prego. Sul cazzo. E Lucky... No, aspetta, quanto ho fatto? Lucky. Ma quindi c'era bello il tiro? Quanto era bello Lucky? 10. Ma tu un po' ce l'hai, Vessri, tiri gli uno e i due. 10. Nell'attacco. 10. È un fuoco magico. Ehi. Ok. Merda. Che Arcane Trickster. Ehi, è verde, potrebbe essere magico. Magari c'è un sacco di rame. Era il rame che diventava verde. Boh. Se si arruccia, se sta in chimica, potresti saperlo. Sì, in realtà esatto, è vero, è un po' preoccupante. Che cosa? Che tu non so che cosa niente, catta. Niente, continua a giocare. Scusami, il rame diventa verde se tipo si ossida, no? Dico quando lo metti in una fiamma. No, il discorso era che dovresti saperlo tu e non chiederlo a noi. Sì, lo dovrei sapere io, ma sai quanti anni sono passati da quando l'ho studiato? Da quando io faccio chimica. Ma tu lavori nella chimica? No, in realtà. Non. Vabbè, continua a salire, Katta. Ok. Visto? Sapevo che sarebbe andato fuori dalla mia portata. Se ti serve un tiro è 15. Ok. Non fai grossi progressi la superficie. Ma che cazzo è una 15 pietra? 15 non è male. Di... No, non è scivolosa, è una pietra d'olio. Che cazzo è? È ricoperta da uno strato di ghiaccio. È ancora... Se è ricoperta da uno strato di ghiaccio, è ancora più facile scalarla con gli attrezzini da scalata. Che minchia di pietre fa la Subaru? Esatto, basta che vada tipo con la lingua. Come fa? Non è quel ghiaccio spesso. Fa l'acrobazia, per cui fa la leva. È quella patinina che ti fa scivolare quando esci la mattina. Vabbè, fanculo, allora mi butto giù. Ciao, Kat. Ok. Prendi 10 danni. Certo. Dopo che analizzi la patinina, dici addio mondo crudele, ti butti giù. Sì, ma avrò fatto 5 metri da come me l'ha descritto Kat. No, dai, neanche, avrò fatto 20 centimetri. Eri quasi a metà. Come era quasi a metà? Non fai ultimi mesi, che cazzo è? Che più vai in alto, più è difficile. Quanto perché è abbiamo Mester. Scusami, cioè sono due turni che scalo, fai il primo turno mi hai detto beh praticamente non sai di niente, adesso beh non fai molti progressi, fai molti progressi. Sei a metà, tira 10 di 6 per i danni, perché all'inizio hai la spinta del salto acrobatico che ti manda un po' in alto. Peter, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Una volta che sei lì sulla parete, io allora, immagino tipo Salla praticamente arrivato lì, mette tipo la mano sopra e fa no, questa patinina non sa da fare. No, in realtà sono io che sono quasi alla fine e chiedo al cielo, dimmi, sono arrivato. No, hai fatto pochi progressi. No, si va su, tipo si tira su proprio. Guarda, fa. Ah, quindi è questo. Bella merda. E poi si va su. Beh, allora salgo, sono quasi a metà. Sì, ma non vuol dire che sei arrivato su. No, anzi, ora sei tornato giù, quindi non sei più a metà. No, hai capito, è che le informazioni di Katta sono... sei appena salito di pochissimo, fai pochi progressi, sei quasi a metà, che potrebbe dire che o sei a un metro o sei praticamente a metà del esatto, dipende in realtà quanto è. Sei quasi a metà, è un muro di 20 piedi, sei quasi a 10 piedi. È un modo di dire. Devo ricordare quando ci bombardava un galeone con una strega e poi alla fine era una specie di campo di bottiglia. Infatti è molto chiara questa cosa, esatto. Quindi anche adesso 7, 4, 7. È 20 piedi, sei quasi a 10 piedi, potrebbe voler dire 2, 9 e mezzo. Vuoi anche la tolleranza, sei a 9,8, ora va meglio. Va bene. Cosa fai? Continua a salire. Si butta. Perfetto, arrivi a 2 piedi. Sono sbagliato, era 2. Allora, un altro morsicotto al nostro tirannosauro. Ero andato un attimo via, quindi sono rimasto un tirannosauro. Sì. Alla fine sì, incredibilmente. 18. Direi che... Ah, 18 danni? Sì. Atanas. Ah, questo sì, mi ha visto di nuovo. Non posso fare l'attacco d'opportunità? Sì. Oppure l'avevi già fatto prima? Fermo. Ma se ha giocato Vardistran è un nuovo turno. Ah, lo fai quando scatto io di turno. Ma tu non l'hai ancora partecipato. Questo era lui. Aspetta, lo posso fare perché prima ho fatto la mia... Cioè, ho preparato l'azione. Ah, ho comunque dato la reazione. Niente, già fatto. Esatto. Ho risposto da solo. Atanas. Quindi... Io ho il fuoco dietro, come al solito, sono richiuso nel mio... Quanti danni hai fatto tu scevo al coso? Prima ne ho fatti 40. Sì. Bravo, scevo, imponiti. Provo a scalare anche la parete. Ok, da che parte? Se ti terra, tuffati anche te. Di qua? Adesso giuro per non... No, potrei... La stessa parte di Race. Ok. Adesso lo tira, fa 10. Sei arrivato in cima. Sei a un quarto. Cosa? Devo tirare con svantaggio? Dipende, descrivimi come sali. come provi a salire? Metto i piedi, metto una mano lì dove c'è la katana di moffetta. Bravo. Non abbiamo gli arnesi? In teoria sì. Sì, ce l'abbiamo. Esatto, no, è a forza. Con degli attrezzi che dovremmo avere di acciaio, quindi il martellino, il picconetto, il cazzo che è per scalare. Ma dove state andando, coltelli. Sto prendendo qualcosa. Dove state andando? Se ne vanno tutti via. Siete stato tipo... Dove siamo andati? Boh, cos'è, sono, tipo la barriera? Cioè, che cazzo sta succedendo? Sì, cioè, come hanno provato, come l'hanno fatto i cosi, come cazzo si chiama? Non mi ricordo più neanche i nomi di Game of Thrones. I bruti. I wildlings. Il popolo libero. Bruti. Bene, prego. Puoi farmi una prova di athletics. Con svantaggio? No, tu no. Meglio con questo svantaggio. No, è che io perché prima... Se vuoi lo svantaggio, fallo. Bam! 20 più 9, 29. Ha cambiato arrivi. Idea con svantaggio. Arrivi in cima. Sei a metà. È arrivato in cima in una sola mossa. Beh, porca già troia, ha fatto 29. Va bene. Allora se ne va. Aiuto. No, beh, a questo punto che ne so, prendo una corda e la butto giù a chi vuole salire. Okay. Puoi descrivere il momento del sorpasso. Che c'è Race che prova a fare i suoi saltini acrobatici e scivola. Lui prende tipo due chiodi di ferro e comincia a piantarli nella parete e si tira su così e arriva in cima senza usare neanche le gambe proprio. Esatto, sì, mi sfregio come quando scalarci, non hai mai visto darci scalare? Esatto, sì. Calunnie e maldicenze. Sala non tornerà più. Fortuna. Io credo che entro dentro il bastione e metto a cercare se c'è qualcosa che possa attivare una porta o un cancello. Che cazzo c'è qua? Allora. Hai appena attivato la descrizione numero. Esatto. 37. Tiro un investigation. 2. Sì, così la descrizione sarà più lunga, vai. Allora, da questa parte, ai bordi del cancello, non vedi entrate. C'erano i due piedistalli dove stavano le statue dei Vrock. E da qui, l'unico... No, non sono neanche collegate. È solo un muro, non c'è l'entrata nel bastione. Da okay. Dove sei tu, vedi cosa c'è dietro. Avrei potuto anche dirtelo prima, ma me ne rendo conto solo adesso. Qui c'è un torrione. E poi vedi ogni tanto quando le sferzate di vento muovono le nubi che passano ululando attraverso il passo di Zolenka, qualche centinaio di piedi più in là, vedi un ponte, la testa di ponte, che dà su un precipizio altissimo, e sai geograficamente che lì sotto ci passa un fiume, molti centinaia di piedi più in basso. Ok, allora mi avvicino al bordo opposto. Riesco a vedere le fiamme? Cioè qui, dici? Sì. Se ti sporgi, sì, riesci a vedere le fiamme. E sono più di 30 piedi di distanza, vero? Sei a... In linea d'aria saranno... 20-25 piedi da te. Ok, allora uso plasma terreno sperando che sia terriccio smovibile per provare a spostare il terreno da sotto le fiamme. Ok. Vedi un po' di terra che si muove, ma non è tutto smovibile perché un po' è congelato e un po' è roccia. Noti una cosa. Dov'è qua? Sfortuna. Esatto. Dopo che lo hai fatto, mi dei fermoni. Spunta una lucertolona che salta su, pronta ad attaccare, ma non vede nessuno e torna giù. Ah, e inizio ad arrampicarsi sul muro. Turno. Catta, comunque ho tirato un'iniziativa spaventosa, ho giocato una volta sola. Il master ti ha dato ho fatto un'iniziativa di merda, ho fatto una volta sola. Vardistrot. Potremmo metterci tipo in cerchio e chiedere. Io ho fatto un'iniziativa di merda, però ho giocato solo due volte appena giocato. Vardistrot. Cosa fai? Metto sulla difensiva. In cerchio e far smuovere il terreno lui e al dai, evoca qualcun altro. Non posso, finché Sceo rimane un Tyrannosaurus Rex. Evoca uno stormo di vermi. Posso proporre un'idea? Dimmi. No, perché sei un tirannosauro, cioè non puoi parlare. È vero, non puoi proporre, puoi fare... No, comunque io mi metto sulla difensiva e tengo la concentrazione. Ti sposti? No. Bravo. Garrosh. Vabbè, io parlo da solo, tra giocatore e giocatore, penso che una bella idea sarebbe metterci in cerchio e far smuovere il terreno esatto, a sfortuna nel mezzo. Ma dentro questi pensieri, nel tuo cervello di tirannosauro... Beh, puoi comunque tipo... avvicinarti se vuoi. Cerco di... cioè, in realtà, dall'inizio la mia idea era comunque stare vicini, ma vedo che la gente scappa, quindi... In realtà, no, noi siamo vicini. Sì, quelli rimasti giù. Vabbè, e gli altri sono andati su. Cerco di mettermi dove il loro numero cerco di mettermi più vicino possibile a tutti gli altri, in modo che se appare il tipo dovunque qui. Appare contro di noi tipo, siamo tutti a vai contro la parete a Zanni Race mentre a metà che sta provando in modo che dovunque esca il verme tutti possiamo attaccarlo contemporaneamente e preparo l'azione appunto se sbuca un verme morbido. Ok, Garrosh, questo era il tuo turno. Spunta un verme. Dov'è? Qua. Garrosh. Prego. Oh, 23. Mio cugino ha commentato. Colpito. Ah, no. Mi ha mandato una foto di carta, mio cugino. Ho fatto forse più di prima. Mio cugino mi ha mandato una foto di carta. Che è quella dove Katta fa finta di sollevare quel roba enorme. Ah, figo quello. E mi dice, è il king. Hai ragione. Comunque ho fatto 45 danni. Gli hai dato un bel morso. Uno sano, uno già ammaccato. Riconosci i segni del morso che gli hai dato prima. Quindi ha già subito, vabbè. Un po' di... Ok. Come sta? È un po' sbrindellato, poverino. Però prova a restituirti il favore. Non ce la fa. E torna giù. Torna giù. Ne spunta un altro. Questo fa una cosa diversa. Nessun altro attacco di opportunità di quello che è andato giù. Da no, qui. Perché dall'altra parte. Ok. No, perché questo stai invece... occupando tutto il posto, Scio. Esatto. Questo invece fa una cosa che non gli avete ancora visto fare. Sì, spunta sì, dal terreno e vi salta addosso. Vedi, l'idea è quella, almeno... Allora. chi è di sotto mio di cugino lui? È ad Arci invece è un pazzo. Dai, io. Voi siete dei pazzi. Cosa? Doppia cena. Beh, dai, quattro pizze. È solo un impiccato. Allora, sei in dieta. Pomodori li hai mangiati, po'? Garrosh, Vardistran e Patk possono decidere se fare un tiro salvezza sulla destrezza o sulla forza. Non direi forza. O essere sbalzati dallo schianto. Decido di essere sbalzato. Cosa? Puoi fare. Come tiranno Sauro? Non allora, non e abbiamo tutti però il più 3, il mio ricordatevi, e il più 1 della luce. Ah, quindi un più 4? Sì, rispetto al nostro. Poi un più 5, quindi un più 9. Io faccio... Sì, 25! 25! Boh. Sei sbalzato. 16. Uso solo la destrezza pura, vero? O anche la proficiency? La forza pura? Anche... Ah, no. Ecco, se mi stavo per dire tu sei un cazzo di T-Rex perché usi la destrezza. No, scusa. Non hai proficiency solo... da T-Rex? Quanto hai fatto? Però usi il bonus della forza. 16. Ok. 16. Ho tirato 5, quindi direi che... E... Patk. Forza o destrezza? Oh. Adesso potrei quasi vincere a braccio di ferro con un T-Rex. Beh, con braccio di ferro con un T-Rex ci riesco anch'io. Vabbè, è per dire. Destrezza, catta. Spintoni. Che prova è? Cos'è che mi fanno? O forza o destrezza? Destrezza. Tira. No. Vez, no. Giulio. Tira. No, dai. Dai, dai, questo è caldo. Va bene, Vez. Bianco, vado. Se, questa è l'ultima tua possibilità, poi passa a Giulio. No, Vez. Giulio. No, vabbè. Questo non conta, Katta. Questo non me lo puoi dare buono. Ha girato di brutto, tra l'altro. No, Vez, veramente hai fatto due di fila sulle tiri di salvezza? Sì. Con due lati diversi. Ora vengo a casa tua e ti sbocco le quattro pizze in gola. Beh, però considerarci che hai un più tre mio... più un altro più no, uno. Quindi... uno sui tiri di salvezza è fallimento, l'abbiamo appena detto. No. Abbiamo detto non che è fallimento. Ah. Abbiamo... Non stavi attento? Abbiamo trovato... se... Era disconnesso. Quindi allora... penso che comunque non ce l'ha fatta. No, io ho più tre. Sono andato a prendere un gelato. Quindi chi fallisce il tiro salvezza prende 26 danni e viene sbattuto per terra indietro. Ci sono già per terra. Chi è che l'ha fallito? Arci, che finisce lì. Mettiamo lì la faccione in sovraimpressione. Mentre chi l'ha superato non è stato tutto. Sulla Costituzione. Esatto. No, Vez, tu hai finito di giocare per me. No, va bene, la Costituzione la passi di default. Perché? No, perché adesso il coso è... Quanti danni hai subito? 25. 26, quindi 26, CD, 13. 13, quindi vai, Vez. Era tu, Giulio. 4, 5. Allora, no, Vez, scusami, 4. Perdonami, Vez. Fa. Ma non farà il terzo uno di fila. Dai, raga, proviamo. No. Dai. Per la legge dei grandi. Dai, provalo. Se fai uno, vado a letto, te lo dico. Dai, lo tiro. Ah, puoi scegliere. Dai. Blu o bianco? Guarda, Vez, fai tu, tanto mi sa che cambia poco. Ma perché? Non hai un dado da tirare, Arci. Dai. Tira, Vez. Però è il mio più 3, il mio più è il più 1 della luce. Sì, ma mentre si tiro che fai col dado? Rega. 11. Però saranno degli 1. C'era degli 1. Bene. Ah. Ma chi l'ha passato invece? Va indietro solo di 5 piedi e prende solo 13 danni. Quindi chi è che prende 13 danni? Io. Quindi, cazzo, siamo praticamente attaccati a sto fuoco. Mm-mm, un passo più là e vi scottate. Mm. Però la, non, abbiamo, e non abbiamo la possibilità neanche di fare la reazione. Sì, tu Vardistran e anche Patk, se volete potete fare una reazione. Vai. Oh, quasi, quasi, fatto 19 più 11, 30. Che culo. Per te. Per te è culo, hai quasi fatto 20. È andata bene. userò un... 20. Uso uno di primo. Così ti ho dato comunque 3 di 8. Questo è come è messo? Questo vermone? È in tons. Però, quanti da ritirare? Aspetta, adesso. Quando vuoi ci sono, eh? Ok, vai. Allora, sono 33 danni. Nice. Ce la fate a uccidere un verme comunque, veramente. Beh, guarda che ce ne abbiamo tipo 4 o 5 che ci stanno. Vermi, verminosi. Uno. Cioè. Ma in teoria tipo due sono mezzi morti. Nell'altra campagna, un verme gigante, siamo dei legionari senza niente. Qua abbiamo la magia, le evocazioni, gli smite, le cose, non riusciamo a ucciderne uno. Cioè. Vardistran, cosa fai? Nella situazione di prima, però vado davanti a Patk, per cui mi allontano leggermente, sono comunque vicino a entrambi. E uso gli ultimi 5 punti delle Aeon Hands, quindi gli altri 5 punti di ferita. Race, sei quasi a me. E continua a salire. Prego. Devi fare 29. Anch'io che aiuto con una. Sì, esatto. Ho fatto 21 con se svantaggio. Puoi aggrapparti alla corda che ti ha dato Atanas e non no. Avere svantaggio. No, senza svantaggio no. Faccio 23. Cambia un cazzo. Arrivi sopra. A metà. Senza aiuto della corda, dai, fai lo sborone. Per principio. No, devo farcela da solo. Esatto. Bene. Dai, arrivi su ma... e Giulio ti fa, ma c'è il sentiero. Allora. Sì, no, esatto, nel ghiaccio ho scavato, sai. Che fu una scalinata. Un altro vi salta addosso. È diverso da quello di prima. Sai che devo vedere una cosa? I tre di prima mi fanno un tiro salvezza o sulla forza o sulla destrezza. Fa anche rima. Sempre col più 4 di pezzi. Allora, io tiro il mio. 19. Iaiaiaiai. 11 più 4. Beh, in teoria 15 ho fatto io. Li devo tirare ancora? Sì. Non lo so, Arcio è volato indietro in realtà, però non è nello stesso punto di prima, no? Ci arriva, per comodità l'ho messo lì, ma ci arriva. Io ho fatto 15 il mio, vuoi che tiri il okay. Tuo, Arci? Guarda Katta che si traveste da imperatore, con le stesse rughe. Esatto. È limitato potere. Chi vuoi che tira... lo tiri, Arci? Anzi, c'è il socio di Giulio che non mi tradisce come te. Vai, vai, Giulio, falli vedere. 18. Dito, però bravo Giulio. Grazie. Bravo Giulio. Tra l'altro Vez, anche tu potresti tirare e dire 18. Sì, è vero. Cosa? Anche tu Arci potresti fare un rumore e dire 20. Così. 20. Ti manca tu Vardistran a ah, 15. Ok. 15. E chi manca Garrosh? L'avevi anche 19. Detto? 9 ok. Allora, Bardistran lo fallisce e prende 17 danni. Metti quindi qui. Ragazzi, io prima ho fatto 16 e l'ho passato, quindi sappiamo la cifra. Vabbè. Esatto. E, di cui metà sono contundenti e metà taglienti, ma vabbè, non vi interessa, credo. E chi ha superato, invece, prende solo metà dei danni e non viene sbalzato, è solo spinto di 5 piedi. Quindi io sono sbalzato, dove finisco? E tu vieni sbalzato e finisci qui. Arci viene solo spinto di 5 piedi e finisce qui. Quindi siamo nella merda. Esatto. Che carino il master. Tata, comunque c'è, posso dire una cosa? Ogni volta che io apro la mappa sono in una posizione scomoda, che decidi te. Questo perché il vermone quando ti salta addosso ti spinge via. Lì ti sei avvicinato tu però. Come no, non però a saltare addosso dentro al cancello? È aperto il cancello. È che capito, però. Loro erano fuori dal cancello. Sì, vabbè, il cancello era aperto. Loro erano fuori, lui quindi li ha spinti dentro. Okay. Adesso sarà più difficile per lui effettivamente raggiungerli. Cosa ma lo sarebbe stato comunque perché sono in mezzo alle fiamme. E ma rispetto a rimbalzare un tiro salvezza all'altro, cioè. Esatto. Così quasi forse ci può come andare dall'altra parte. Sì, prenderci. Ma era anche di là il. Cioè, noi non l'abbiamo visto, ma ha visto Marco che sono anche di là i vermi volendo. Beh, in realtà magari a me l'avete visto. Vedi che sono d'accordo. In realtà è l'unico è crearli una sorta di trappola come avevo proposto prima, ma in teoria io non l'ho detto. So, cioè, se seguo la lettera. Non ha senso. Perché se uno ti spinge, prendi danni sia quando entri sia quando inizi il tuo turno. No, dai, non è possibile. Se rimani dentro, sì. Ah, non hai possibilità, perché se uno ti spinge dentro... ma non attraversi il fuoco. Entri... No, perché sei in mezzo alle... Piano, fermo. Io ho la reazione, no? L'ho appena usata, maledizione. Io ce l'ho. Maledizione... Cazzo, perché avrei potuto fare Relentless Avenger, per cui mi muovevo anche. Lo faccio io, anche. Avenger Ensemble, lo casco. Comunque, facciamolo adesso così non lo dobbiamo fare dopo, chi entra nelle fiamme prende 33 danni. Porca puttana. Io però ho il tiro salvezza, catta. Non c'è tiro salvezza, quindi becchi così e basta. Sì, chi entra becca, non c'è scritto niente. Porco che regolamento è? Cosa hai detto? Vuol dire che prendo 33 danni così a cazzo a freddo se c'è? No, è a caldo, se nelle fiamme. Sì, dice qualsiasi creatura che entra o inizia il turno prende 33 danni. Cioè, 6 di 10, ma se vuoi li tiro, però facciamo. Certo, voglio che li tiri. Vuoi che tiri 6 di 10? Va bene, tiro 6 di 10. Falli tirare a Vez. Tira 6 di 10. È la volta buona che passi. No, rega, non fatemi. No, non tiro i danni su di me. Mi rifiuto. È la volta buona che mobbing. Prima il PCM, poi la sua porta e poi la sua testa. Prendiamoci 33 danni, Arci. Ok. Questo era lui. Atanas. Cazzo, comunque. No, devo tirare sulla concentrazione di nuovo, catta? Sì. Quanta vita ho adesso? Dobbiamo sperare di una poca. 24. Solo una cinematica potrà salvarci. Vabbè, fammi il tiro salvezza, Giulio. Vabbè, faccio io. 20. Ok. Così era una ciabatta quella di ciabatta 16 sei assunto Giulio. Hai fatto il periodo di prova Atanas io grido, salite, e che c'ho, gli sto reggendo anche la corda, e poi preparo, quando vedo un vermone gli sparo. Il vermone non si è rinabissato, è ancora lì quello. Ah, ah, gli sparo allora. Cio, stroncalo. Quando tocca a me. Legolas, abbatto. Bam, doppio critico, 20-19 di dado. Peccato, ah, Giulio che non tira sotto... una piccola freccia. Giulio non tira sotto il segno. è il proiettile della freccia. Maledetto guerriero di merda. guerriero alla Giulio. 9. Datemi le mie bolas. 13. Beh, in realtà il tiro di, cioè il dado di danno è lo stesso. Però il modificatore. Vabbè, quello però non è modificato da. 13, 15, 17. 17. Che è un doppio critico di 17 danni. Ho tirato veramente male. I danni sono gli stessi. È ancora vivo. Sfortuna. Giulio! ho 4 di 8 più 4. Oh Marco, fai qualcosa, per piacere. La palla di fuoco, una. Marco, siete tutti lì. No, vabbè, la basta che la fa... Ma no, la può fare tranquillamente prendendo solo lui, dai. Ah, ragionamento diverso è che tanto è già nel fuoco. Quindi ma no, ma la può fare in un punto dove non becca altri che il vermone. Il tiranosauro lo becca. Marco è morto. Cazzo, Marco non c'è. Adesso deve fare. Sta dormendo con gli occhi aperti. Guardatelo. No, io, guardatelo. Io vedo i pallini che si muovono. E io no. Okay. No, io vedo la sua faccia è tipo. Sì, esatto. No, ma mi sa che quella lì, l'ultima immagine è rimasta. Sì. Sempre nei nostri cuori. Dice che si è addormentato. No, così. C'è problemi di connessione. No, no, vedi che anche la lavagna dietro non si muove. Allora, tanto che lo aspettiamo, c'è... La cosa bella è che ci siamo accorti tipo dopo 2 ore che era così. B11. Potrebbe rubare questa strategia anche Salla. Oh, cazzo. Un cartonato di se stesso che è nerda. La mette lì. Dai, niente. Sbalzaci fuori. Ti manca T-Rex. Sì. Ti sentiamo. Ok, va meglio. Sì, va meglio. Sì. Cosa vuoi fare nel tuo turno? Eravamo preoccupati, Marco. Niente. Volevo dire, ehi, sono attratti dalle vibrazioni. No, adesso se non tiri dei cazzo di Eldritch Blast, io salgo lì su e te li tiro io, però. No, beh, dice sono attratti dalle vibrazioni. No, adesso poi scegli se fa la palla di fuoco o Eldritch Blast, no, non fai niente. No, adesso cercare. si mette a cantare, ma questo è dedicato a te. Uso... Mi affaccio dalla parte opposta rispetto a dove sono. Quindi, da questa parte. Quindi dalla parte giusta. Vedo un vermone particolarmente ferito? Sì, questo. Tanto c'è solo quello quando attacchi tu in realtà, mi sa. Che okay, gli metto... Anche Giulio si sta innervosendo. Cazzo, maledizione come azione bonus. Slabba. Ok. Quindi aggiungo un D6 a qualsiasi attacco che faccio come danno. Esatto. E cazzo, 2 Eldritch Blast. Oh, prego. La grande richiesta. Colpiscono entrambi. Ah, il Eldritch Blast è il coso di Yu Yu Hakusho. Sì, esatto. Ma perché Marco li fa arrivare lì? Perché se è iscritto e gioca da lì. Ah, ma ce l'ho anch'io Roll 20, devi dirmelo. Potrei fare. No, quindi... Ma sono entrato nella stanza sbagliata. Aspetta, dai, dai, rientro nella stanza giusta. 6 danni. 27 danni. 27 danni. 6 sono necrotici, quindi non so se i non morti pigliano uguali. Sì, gli altri 21 sono a forza. Ok. Ora mi spiego cosa fosse questa cosa, questa gif che vedevo. Tra un quarto d'ora io devo andare, rega. Mm-hmm. Ma arriva la pizza. Oddio. Oh cazzo, questo sono io che sono partito invece. Ai ai ai ai ai. E ironicamente vedrete solo me in questo momento, sentirete solo me, ma non temete, non temete, troveremo un modo. Problemi tecnici, chissà, forse il problema è Discord che ci sta un po' abbandonando. Cari amici del podcast, chi l'avrebbe detto che avreste sentito questo monologo in questo momento? Proviamo però a fare una cosa, disconnetto. Allora, vediamo un po' gli altri cosa dicono. Allora, vediamo un po'. Non raggiungibile. Allora. Diamo un'altra chance a Discord e se non dovesse funzionare, non temete, torneremo comunque in diretta nei prossimi settimane. Tra l'altro, questo mi dà l'occasione di ricordarvi che abbiamo comunque dei nuovi articoli. Nello specifico abbiamo l'articolo della maledizione di Katta, numero 53. E abbiamo anche il un articolo dell'Umbra Imperi, questo è il Liber 17. Prossima settimana ci attendiamo di giocare a Umbra Imperi, ma adesso non so, ancora non è certo al 100%. Vediamo se c'è stata qualche novità. Proprio sto facendo la diretta da solo. Ok, allora Scusate. Non raggiungibile. Oh! Perché colpire sono cosa? Tornato 30 danni, non lo so, ha fatto, fatemi un riassunto di cosa è successo. Niente, il verme, ecco, ha provato, so, mi hanno chiesto cosa fa, detto, io ho colpito. Dai, sono andato in diretta da solo. Come ho colpito, non c'era niente da colpire. Ma come? No, come mi ha mentito Bosi, Marco. Io ho detto quello che ha detto il master. Arci ci ha salutato. Arci chiede che se esce dal fuoco prende i danni. Per questo turno li ha già presi quando c'è entrato. Quindi può uscire. Già che c'è. Una volta che ha fatto 30. Cos'è che ha detto Arci? Che il suo Discord sembra un vecchio che scopa. Cosa che ha detto? Sì. Quindi non so che vecchi che scopa conosca Arci, ma è sono come il suo Discord. Questo rende ancora più ufficiale l'arrivo del secondo lockdown. Ah, ok. Sì. Beh, vi ricordate? È vero che è andato in crash Discord. Sì, ah, proteste nelle città, Molotov a Milano, saccheggia Torino, tensione a Napoli e Trieste. Merda. Saccheggia Torino. Vabbè, raga, io nel dubbio mi chiudo in casa. Raga, che faccio? Io nel dubbio mi chiudo in casa per la paura. Poi... Milano, i manifestanti provano l'assalto al grattacielo della regione Lombardia. Dategli le brioche. Cazzo è? Boh, beh, rimane solo quello da fare, ci sta. Quello è per il coprifuoco. Che cazzo facciamo stasera? È per il coprifuoco. Facciamo un po' di saccheggi. C'è il coprifuoco, usciamo tutti. Facciamo un po' di saccheggi. A Lombardia c'è il coprifuoco. C'è la cosa imbarazzante è che ti chiudono tutti i negozi, si protesta, ma il giusto. Il coprifuoco no, che è la stessa cosa di fatto. Perché tanto si chiude tutto, non... che cosa cambia? Hanno sparato delle molotov. Campania hanno il coprifuoco. Sì, Campania, Piemonte, Lombardia. Eh? E Lazio. Hanno sparato delle molotov, quindi... Raga, ci facciamo un saccheggino sabato sera. Zio bordello. Dai, io non... Ma io cosa non andiamo a Milano a farlo? No, qua, darci mentone. Se no, andiamo... ma qua non abbiamo il coprifuoco. Vabbè, non abbiamo la motivazione. No, puoi comunque saccheggiare, Giulio. Andiamo al cucchiaio d'oro. Ciao Lazio. E Repubblica G che erano Forza Nuova e Anarchici che si erano uniti per lanciare Molotov. Beh, se non colpisci il palazzo della regione non sei nessuno. Va bene. Comunque Arci vorrebbe salire sulle mura usando la corda che io ho buttato. Dite che posso dare fuoco al pratino. Così, atto. Aspetta, solitario. La pistola l'avevi portata tu. Boh, no, l'ho trovata lì. L'hai trovata lì. Ma è, ok. Arci può fare una prova di scalare. E come dite che lo sapremo? Tiratela voi. Beh, vabbè. Sì, ma facciamo i... Ah, vabbè, sì, è intanto... vero. Devi fare una prova intanto... di scalare. Che Arci scala. Aspetta, Garrosh... cosa scrivi, fai? Scrivi di tiravezzi. Penso io. Aspetta, voglio mettere anche... Garrosh, cosa fai? Allora, aspetta che resetto le idee. Quindi la situazione, fammela capire meglio. Che mi sono Arci ha attraversato le fiamme e sta prendendo una corda per salire sulle mura. E... E quel fatto che è crocettato è perché è morto? Sì, è un cadavere di un arci fatto. In realtà non ho molto da fare se non nuovamente preparare il morso. Ok, scrivimi il risultato che non l'ho capito, Giulio. No, raga, siete frizzati di nuovo? Ah no, solo Giulio. Io no. Ci siamo, ci sono, ci sono. Alla non lo so, ma penso che sia la posizione. Sono, sto leggendo. È l'unico che mi doveva rispondere, sì, che si è frizzato. Ma forse risponderà su... Forse io non sono frizzato. Sì, sei un po'... Scrivimelo il risultato. 11 di dado. 11 di dado. Ok. 11 di dado. Ho capito, è che è che la Gavi. No, ho capito, è che non sai più di arci, quindi non so poi il risultato totale. Dado. Ok, arriva esattamente a metà, con una tolleranza del 5%. Garrosh prepara l'azione. Sì, prepara il morso. Ok. Posso? Aspetta, se posso. No, per difendere i miei amici tra virgolette che sono nel fuoco posso fare un passo per occupare la porta? Sì, esatto, esatto. E poi preparo adesso, vabbè, non importa più. Ok, no, ma non si vede bene però, porca la puttana, due alla... arrivano però due vermoni. Domanda, se uno prepara un'azione è un solo attacco? Esatto. Va bene, vado. Vai. Vuoi tenere il mio 30 danni di prima che ho fatto a caso? Tira. Allora, colpire 20. Sono... ho tirato malino. 12. Uff, che schifo. 19 danni. No, 21 danni. 21. Minchia. Ok. Era meglio se mi tenevi il treno. Loro ti colpiscono. No, sono... Quanto sono, Giulio? Da T-Rex. 13, 13, 20, 45. Ah, no. Arci mia licenziata. 32 danni. Ora sei a 63. E si inabissano. Vabbè, non c'è nessuno che può usare la reazione per sparargli. Non lo so. Nessuno ha preparato questa azione. Stanno mangiando un T-Rex. Arci dice più 2. Più 2, okay. Sì. E... in totale 13. Vardistran, sei in mezzo al falò. Non è il caso fai? Che io ci stia. Esatto. Arci dice... Vabbè, se no dite ad Arci di telefonare. Comunque la mia CA è 16, carta, sasso, forbice. Forbice. Ok, sei a metà strada nella scalata. Non 17 come ti avevo detto. Quasi metà strada. Allora, fammi vedere la situa. Un vermone morto? Sì. Sì. E io non ho, vedo vermoni e soprattutto sono in mezzo al fuoco. Sì, non vedi nient'altro, sei avviluppato dalle fiamme. E suppongo di non poter andare dall'altro lato. Cosa te lo impedisce? Non lo so, il fatto di prendere altri danni, immagino. Ma dipende comunque. Aspetta. Quelli che potevi prendere li hai già presi questo allora turno. Allora esco dall'altro lato. Dove vai? C'è un bastione e la strada che continua in là. E dal bastione posso salire? Fatto, chissà se si capisce qualcosa da qua. No, vabbè, lascia stare. C'è una porta qua. Sì, ma vedo Pat che è dall'altro è lì che sta salendo, no? Sì. Beh, io in realtà volendo avrei anche un Misty Step forse. Che potrei usare. Dimmi. Sì? Hai 27 di vita. Sì, allora lo uso. Intanto ci salutarci. Dice che va in branda, che Discord non funziona. Sta usando come scusa, non ci fanno neanche. Ciao Arci. Ciao. Ok. Ciao, allora, Arci. Io Misty Step, se non sbaglio, è in un istantaneo. Vado esatto. Su. Esattamente. Su di qua o su di là? No, su dall'altro lato. Sì. Là qua. Dove sono quasi tutti gli altri. Sì. Ok. Anche se abbiamo lasciato uscire un po' solo ora. Vabbè, sono lì a posto. La più umile delle creature di Dio. Passa il fuoco, sale... Passa il fuoco. Vabbè, boh, che bisogna eliminarli però sti qua. Ma se preparate tutti un'azione per colpire dall'alto, quando saltano fuori li colpisco io, lo colpite voi, lo colpiamo tutti insieme, li facciamo un botto di danni a turno, dovrebbero morire in pochi turni. Race. Preparo l'azione, appena esce uno stronzo di sparo. Ok. Anch'io la posso fare quello però, Sì, hai un'azione. Preparo anch'io per colpire quando vedo il vermone. Con che cosa? Buona domanda. Però direi ad occhio l'arco. Ok. Molto bene. In questo modo tiriamo tutti appena esce un verme, in teoria. Sì, però... D'accordo. È un ottimo modo per colpirlo tutti quando esce intanto. Poi al massimo Arci, vabbè che non lo usa lui però, se no. Mi ritrasformo in nano può affiancarmi a altre bestie. In realtà mi danno... c'è una mossa da fare da parte mia. Dove ok. Atanas? Non c'è nessun vermone in vista, vero? No. Beh, qua mi sa che è perfetto per un riposo lungo, comunque, se posso dire. Facciamo il riposo sugli spalti. Sì. Non è che non è piano dove siete lì, c'ho anche il cuscino. Siete aggrappati a questi spuncioni su questo muro dove non c'è neanche un camminamento sopra. Ok, sì, forse è un po' scomodo. Davvero? Non è che c'è lo spalto, gli spalti come qua. Che cazzo l'ha progettato sto posto? È un muro. Oh, ma è bellissima questa roba. Prossima volta, prossimo turno faccio. Niente, preparo l'azione quando esce il vermone e sono sempre lì ad aiutare Arci a salire. Ok, sfortuna. Io muovo la terra, ma a 10 piedi di distanza dal tirannosauro. Quindi qui, tipo? Se riesco come gittata, anche se dubito. Beh, mi sembra che 30 piedi li abbia, no? Sì, ho 30 piedi, però sono anche in alto, tipo 20. Sei in alto di 20, la matematica ti insegna che raggio per raggio al per quadrato, 3, 14. Al quadrato. Quindi si spunterebbe qui da dove c'è il cadavere dell'altro. Sì, provo ad attirarlo lì muovendo il terreno. Ok. Spunta io, raga, fuori. Tra un po' vi saluto. Sì, anche io domani devo svegliarmi molto presto. Poco. Finiamo il turno. Ok. Il vermone spunta lì. Prova a dare un morso. Sì. Prova a dare un morso al T-Rex. 13. Ti colpisce. Sono solo 13 danni. E poi torna giù di nuovo. Aspetta. Ma non avevamo le azioni preparate. Massacriamo. Allora, voi avevate le azioni preparate. Reist e Vardistran, sì. Da qui e da qui. Anche Atanas. Vai. Il primo è... Sì. Può iniziare Vardistran perché l'aveva ancora dal turno prima. Vabbè, mi tengo il 13. Lo chiameremo Atanas il frizzato. Allora, io faccio... 14. Mancato. Race. 22. Posso continuare a stare così? Colpito. È furtivo? Sì. Ah, lo è. È buono. Ah, un di 8. Ma ti ha colpito Vermesh? Sì. Sì, 13 danni. Sì, sono 30 danni. Però. Easy. Atanas. Sparo. 21. Colpito. E sono 6 danni. Yes. Dopodiché, Patk può continuare a scalare. Mi sono felice. Patk continua a scalare, fa... Pam, 20 di dado. Con una capriola arriva in cima. Garrosh. Preparo il morso. Ok. Molto bene. La terra sulla pendice della parete attaccata a cui da cui parte il muro comincia a tremare. Un verme spunta da qua e vi salta addosso. Fate un tiro salvezza o sulla forza o sulla destrezza. Ma non è pieno di spuntoni il muro. E infatti si fa un po' male anche lui. 19. Comunque è del più 3 mio, Sì. Ma io ho un più 9, non allora più... io ho fatto 25, 26, 29. 30. Io spingo il verme. Sì. Esatto. Merda. Non so se 16. Mi spiego. Devo farlo anche per Arci, mi sono stato... Fatto un bel 16 con 3 di dado. Male, 8. Bastava. Arci non sarebbe felice. Hai fatto 8? No. 8 più 2, 10, mi sa. Ok. Allora. Vabbè, tutti tranne Arci avete fatto più di 16? Sì. Io ho fatto 16. Tu hai fatto 16, quindi direi che lo passi. E quindi chi l'ha fallito prende 13 danni. No, però aspetta, viene... Arci, hai fatto, Giulio, 8 di dado. Ah, sì, 8, quindi in effetti 10 più i tuoi 13, 14. Ok, vabbè, peccato, ci abbiamo provato. Ok, quindi... Aspetta, c'è anche il più 1 di Strad. Sì. Strad 17. Sì, 14. Chi viene, quindi chi fallisce prende 13 danni e viene sbalzato indietro. Quindi Arci cade giù e quindi fa 20 piedi di caduta che sono 2 di 6. 12 danni. Minchia. Che sfiga. Aveva fatto poco il verme, ma gli ha fatto un botto alla caduta. Quindi il tirannosauro si perde. Dipende se... Ah, sì. Sì, perché a meno uno. Va a meno uno con la caduta. Ah, ok. Ah, okay. Ma è in forma animale? No, è un nano. Cioè va a zero. No. Minchia, arci a zero non so se è mai successo. Quindi sono un nano. No, però okay, onestamente non è andato in corpo. No, perché non si è trasformato in... In effetti, perché non si è trasformato? Perché doveva perché tenere... Teneva la cosci... No, ma non si è neanche mai trasformato qua. È possibile che le avesse usate prima. Sì, magari non ce l'ha la forma animale. Se non ce l'ha o comunque era perché basta, teneva... Ne ha usata... Quelli che rimangono... Mi provano a fare una prova di destrezza per rimanere in equilibrio sul muro, oppure se vogliono possono scendere. Scendere vuol dire fare 20 piedi di caduta? Ma dai, ho fatto no. 20, no? Sì, sì, tu puoi decidere se rimanere su... No, scendere vuol dire scendere in equilibrio, quindi senza farsi male. Allora, se non è un tiro salvezza, 18. Allora scelgo di scendere. Cioè, io sto fermo di petto. Praticamente è arrivato questo autobus e io l'ho fermato con una mano. Tu puoi scegliere se rimanere sopra o se scendere. Io scendo. Rimango lì. Ok, tu Race cosa fai? Rimango lì. Ok. Questo era lui. Credo. Garrosh 3-4 3-4. Ok, rimane preparata la mia azione. Se gli vuoi dare un morso, sì. Da nano. No, ah. Piano, se l'aveva preparata prima lo poteva prendere perché era ancora T-Rex. Ma no, sì, ma non... No, questo è un altro. Esatto. Sono uno nuovo. Su di Garrosh. Quell'altro è su di voi. Oh, cazzo. Quanti armi sono rimasti? 2, 3. Quanti sono rimasti? Solo 3, probabilmente. Cioè, quello che io gli avevo tirato un po' di roba addosso. Bardistran. Io ora sono giù. Allora, io faccio Aura of Vitality e con che è un'azione e con la mia bonus faccio 2d6 ad Arci di punti ferita. Sono 6 danni. Però ritorno su. Puoi chiudere qui Katta, che era l'ultimo del turno. Era l'ultimo del turno. Dai, facciamo un altro turno, 2. Sì, lo fate, io vi saluto, vi mando la scheda. Io pasto giro, rega, non ho orari. Dai, fai qui. No, io ho un esperimento mattina alle 7, quindi vi saluto. Va bene, anche io mi do sveglio. Ciao Salla. Ciao. Ciao. Ciao Salla. Ok, dai, che manca poco. Noi. Esatto. E poi mi sposto okay. Però, perché comunque no. È di 30 piedi, quindi... No, non esageriamo. Un punto dove possa essere a 30 piedi sia loro che lui, cioè... Questo qui? No. Allora, fammi un quadratino... No, attaccato al muro sotto. Esatto, no. Allora, rispetto a dove ero prima, un quadratino sopra. E a destra. E uno okay. Giù. E uno giù. Ok, posso. Va bene. Ok, Race può fare un attacco. Lo sai, vero? Che hai fatto solo un passo di un quadretto. Alla fine. Non dire. No, era quello che volevo fare. Sceo, però non capiva a Katta dove volesse andare. Per cui l'ho dovuto guidare così. Attacca qualcuno, attacchi con Race. Vai, che attacchi ha? Io. Che attacchi ha? Non c'è nessuno alla scheda. Nessuno alla scheda di Salla. Neanche Salla. Beh, secondo me ne ha uno. Tira un di 20. In bilico. 4. Ok, chi ha la scheda di Salla? Vabbè, dai. Non... Vabbè, di livello, dai. Atanas. 4. Vabbè, quindi adesso il vermone è lì davanti a me. Sì, è lì davanti a te. Dai, fai guerriero. Faccio un passo indietro e gli un sparo. Passo indietro e fai. Venti e 9 di dado, quindi sono due critici. Bravo. e un 18. No, non dai. So. Oh, già, sfortuna. Ah, tipo gli mancava un punto. 5. Lui è bloccato di nuovo? Intanto puoi andare avanti, sfortuna. Ok, visto che l'altro vermone era morto ed Dex era ancora attivo, posso spostarlo con un'azione bonus sull'altro senza doverlo ricastare. Sì. Quindi gli lancio due attacchi blast. Vai. Senti. 27. Gio si sta svegliando. A 12 e 10. 62 anni. Che sfiga. Esplode in mille pezzi. Che cosa sta succedendo? Ha dato Giulio i danni che aveva fatto prima. Sì. Ma era già morto con questo. Sfortuna, mancano entrambi. Oh, vabbè, volevo tirarli i dadi per questi due critici. Non è giusto, sì, sì. 62. Ma cosa, Giulio? 35. Fine turno, allora. Ok. Arci. Ok. Minchia. Quello è morto. Anche questa è la sfortuna. Ok. Quelli che sono rimasti come sono messi? Hanno qualche ferita, ma stanno ma abbastanza bene. Quello che avevo bene. Colpito io? È quello morto. Chissà se riesce a riconoscerlo. Che l'ha ucciso Giulio, che gli ha fatto questo. Sicuro. Che spreco. Sicuro. Spalmato lì, bra. Comunque Garrosh ne spunta un altro e decide di azzannarti la testa. Ma tu hai... sei almeno in ira, Garrosh. Hai un nuovo cappello. No, perché sono diventato tirannosauro prima di giocare. Il primo turno, quindi... 14. Ancora no. 30... 34 danni. Adesso lo ritrasformiamo. No, beh, secondo me ha più senso che adesso faccia da barman. Ma Arci è tornato su, l'ho riportato su. Vabbè, Pat... puoi evocare delle bestie. Ma ha più vita. Ha più vita ed è solo lì. Patk. Ha più senso che Arci adesso diventi un orso nel 2. Che con... cosa? Che è il passa attorno al fuoco? Dentro al fuoco? Ma non puoi evocare delle bestie intorno a me per aiutarlo? Io farei tornare Sceo cosa se può a distanza. Io non so se è abbastanza come... lo farei curare perché comunque sei punti ferita. Ma chi? Se stesso. Arci lo posso curare io. Comunque. Cioè, il discorso è i vermoni sono dall'altra parte in questo momento. E potreste provare ad attirarli di là, e se volete. E c'è solo Sceo contro di loro. Quindi, boh. Cioè, io darei... Ma se uno tira una freccia attraverso le fiamme, prende anche i danni fuoco. Ok, cerchiamo di non scoprirlo. E... Le prende la freccia. Che rischia di arrivare dall'altra parte come un brustolino. Non può trasformare coso? Sceo? Bisognerebbe sapere quanti slot gli sono rimasti. Però scrivere. In teoria Polymorph dovrebbe avere 30 piedi di gittata, vediamo. 34. 60 piedi. Ogni tanto qualche frase qua è là di giù. Quanti può avere? Però è su una creatura che può vedere attraverso la coltre, non lo vede. No, lo vede attraverso il coso? No. Attraverso il fuoco? Ah, vabbè, allora... Ma dopo Sceo che ha subito 34 danni? Patk. Boh, vabbè, farlo sì. Curare e poi si innalzerà, non lo so, lì non vede niente. Va bene, intanto che ci pensiamo, vai Garrosh. Allora, vado in ira e col fatto che ho una parete accanto posso tentare una carica correndo sulla parete? Onesto, ci sta. Non capisco come riusciresti a fare a tornare indietro. E ti dai lo slancio in una direzione e poi... Cioè, la mia idea, io ti mimo la scena, questo è il verme in verticale. Siccome c'è una parete, io corro lungo la parete per andarla a colpire sulla testa. Fa la e ne capo... corro e... Non è in verticale il verme. Vabbè, più o meno, è più in alto di me però. Puoi correre sul verme. È alla tua altezza. Ah. Perché è mezzo dentro il terreno. Prova a colpirmi. Quindi non ho... Dai, attaccaci. Questo vuol dire... C'è un 2 o uno 0? Aiutami. È 2. Lo 0 non conta. No. Non sei... No, allora... Vabbè, tiro anche 2.0 è 2. Esatto. Tiro già il secondo attacco, che è 14. Di dado? No, è totale. Manca. Ok, allora tiro solo il critico, che non è tanto, però. Devo trovare un D8, quindi un D8 più 4 più 3. D8 più 7, poca roba, 10. Con un critico? Ah, è vero che ho critico brutale. No, no, scusami, è vero che è critico. Allora, aspetta, scusami, cancella quello che ho detto. 7 più 6, 13. Critico brutale vuol dire che ho un ulteriore dado. Ricordo bene. Sì, sì. Comunque. Critico brutale del nono livello. Sì, sì, mi ricordo. Aggiungo un ulteriore dado quando faccio critico. Un dado dell'arma. Totale faccio 20. A mischia 20, yes. Questo era Garrosh. Poi... Sì, movimento non ne faccio perché altro vermone 18 per colpire. Aspetta un attimo, manca. Ok, no, ah, giusto, bravo. Ricordami. Adesso è anche in ira, quindi di mezzo. Ricordami che hai quella buzz. E questo era il vermone e Vardistran. Che bazza. Che lui con una reazione può diminuire il mio tiro. Ah, no, lui. Non abbiamo deciso Pat cosa fargli fare. Vabbè, mi faccio... Secondo me si cura. Allora io mi faccio 2 di 6 di cure a me. Con sempre con la bonus action dell'Aura of Vitality. E sono sempre 6 danni. No, a me. A Pat fargli fare una cura su di sé. Sì. Diciamo che Pat lo consideriamo non combattente adesso, tanto. Ma non combatte lui, non combatto io, non combatterei, non combatti tu. No, io combatto adesso. Sì, siete tutti dall'altra parte del combattimento. Ho appena ammazzato uno, lasciami scendere. Bravo, tu giuro sei messo bene con ferite, vero? Sei full. Oh, cazzo. Poi Giulio si ferma, cioè, Sceo, sei solo tu. Vabbè, io ho fatto questa cura e è bella. Fate un attacco con Race. Ma chi? Sì, sì. Non c'è nessuno. Ho preso 6 punti ferito. Tirate un dado. 9. Prendete la scheda. Non c'è una scheda. No, con 9 colpisce. Catta, puoi guardare un attimo Giulio? Io ho solo una parola, F4. Chi è che colpisce Ray, scusa? Uno dei vermoni in corpo a corpo con Shea. Ma Ray è sopra. E da sopra spara di sotto. Spara. Okay, quindi ha l'attacco sneaky. Sì. E cosa deve tirare? Sì. Allora, intanto che gioca Atanas lo calcola a sfortuna. Ma sfortuna allora, cosa ha fatto sto turno? Deve ancora, viene dopo di te, adesso tocca a te. Non lo so, che arma usa Salla? Una balestra. Una balestra cos'è? Un D6? Crossbow light? Io salto al vermone più vicino. Arrivo. Un D8, lui è un... Puoi provare a saltargli addosso con una prova di athletics. Ma poi posso attaccare? Sì, se fai abbastanza, sì. Livello 9, giusto? Sì, giusto. 5 di 6. Quindi un D8 più 5 di 6? Sì. Chissà che cosa. Aspetta, che devo vedere una cosa. Tiro io, dai. Probabilmente anche più 4, direi. Oh, no. Forse anche di più. Beh, se non è più 4 è più 5. Allora, intanto tiro io. Sono 10, 16, 20, 25 più quanto gli volete dare? Più 4, più 5? Più 6? 25, fai più 5 così fa la cifra tonda. 30. Minchia, ma spara di brutto lui comunque. Fortivo. Sì, si lamenta sempre, ma in realtà è utile se la giocassi. 5. È morto? Mm-mm. Quindi tu, Giulio, stai saltando da su un cadavere? Sì. Così attutisce l'impatto. No, allora io lì non ci arrivo. Posso saltare addosso il cadavere e attaccare con il fianco? Se fai un tiro molto alto, sì. Ok, no. Ok, sfortuna. A meno che tu non voglia usare delle frecce da... Arrivo al limite, e prossimo turno scenderò per attaccare, ma per questo sparo due frecce. Dai. Perché sennò non ci arrivo. Diciassette. Colpisce. Quindi sono 9 più 7, 16 danni. Come hai messo? È abbastanza ferito. Quello chi era? Lui. Patk. AFK. Garrosh. Aspetta, mi hai saltato? Sì, ti ho saltato. Sfortuna. Eldritch Blast. Vai. 12 e 14. Yay. Porca troia, che sfiga. Garrosh. Lo finisco. Vai, primo attacco. Porca troia, 10. Secondo attacco. Oh, 25. Colpito. E faccio 6, 7, 13 danni. Ok. Garrosh. Bene. Lui ti ritorna un bel morsettino. Ti manca. Vardistran. Allora, papà, io sono lì che cazzeggio, mi faccio altri due di 6 di cura. Non vedo altro, cioè Arci si è curato, immagino, quindi... Sì, tanto che ce l'hai, conviene no. approfittare. Race fa 9. L'ultimo tiro. 9, 9. Colpisce. No, 9, no, no, 9 da 9 punti ferita, adesso ti dico quanto tira. Lui fa 17, quindi colpirà. Colpisce. Quindi Giulio, aggiungimi 9 ai miei punti ferita, per favore. Fatto, e fatto. Ragazzi. E poi facciamo il tiro di Salla. Sempre furtivo, no? Sì. Tiro bene con il D8. Male con questi, ma bene con questi. 12, 14, 19... Spoiler, Vez è morto. 27. È morto. 5, 32. No, più 3, così fai conto pari. 30. Bene, ditemi brevemente una cosa. Sì. Che cosa fate? Cosa Io volete uso fare? Tutti i turni che ho sì. della mia Aura of Vitality, che è un minuto, fino a un e minuto. Tu e curi, quindi ne hai altri 3, 7 mi sembra. Ne hai usati 3, giusto? Ne ho usati 3. Mi sembra. Sì, posso curare me o altri se hanno bisogno, però va bene. Mario fuoco... dal mio lato. Dopo calcoleremo queste. Il fuoco non si estingue, no. Il fuoco non si estingue e dopo una manciata di secondi il cancello comincia a chiudersi. Io mi arrampico. Ok, tu ti arrampichi e con la corda che ti gettano, anzi senza neanche bisogno di tirare, no, riesci a... A scalare. 18 di dado. Ah. Uno. Sono ancora, sono ancora... Uno su Arch, no, okay. Sono ancora in ira, quindi carico il muro. Ma io cammino, vabbè. Corro sulle pareti, che cazzo mi fai tirare? Infatti ti ho detto puoi anche non tirare. Io quanta vita ho, Giulio? Adesso 36. Beh, faccio anche due. No, ma adesso... Salire. Adesso penso che il prossimo passo sarà esplorare questo posto se c'è un luogo sicuro all'interno del edificio. Allora, aggiungimi 17 che ne ho fatti altri due, quindi me ne mancano 5. Chi è che di voi ha bisogno di cura? Facciamo sta mossina Marci. Qui così la prossima... Marci non si cura da solo? Beh, così lui è... gli lasciamo le cure. Va bene, dai, gliene faccio due ad Arci. Allora. Io non so alla fine come sono messo, non malissimo. 14, ne ho usati altri 2, quindi sono me ne mancano 3. Io quanto sono? 2 a 53. Facciamo che ne faccio un'altra. Fai più 3, più, più 6, scusa. Più 6. Ne hai un buon. E me ne mancano 2. Tuscio non ne ha bisogno? Non lo so alla fine quanto ero, in realtà non malissimo mi sa. Sono tipo 80 qualcosa su... Ah, sì? Cioè mi manca tipo, mi mancano Arci. 30 punti di vita. Tipo. Arci a 20. Vabbè, facciamo gli altri, gli ultimi due 83. Ad Arci. Sì, falli a lui, falli a lui. Poca roba però. 12 danni complessivi, ho finito. Io 32. Io Vez molta vita l'ho persa da tirannosauro. Così lui a 32, io sono a 59. No, ma adesso il prossimo passo è esplorare sto torrione qui, sto bastione, se c'è posto ed è sicuro riposiamo. Va bene. Allora, possiamo dare la buonanotte. Le statue sul torrione, sul bastione non si sono mosse, vero? No, le statue sul bastione non si sono mosse. Molto bene, sì. Possiamo dare la buonanotte e ringraziare chi ci ha seguito. Abbiamo avuto anche qualche commento, soprattutto di Ambra, durante la nostra diretta. Ma anche da questo... che ci fa notare come Katta sia maestro Yoda, ma sembrava più un malvagio imperatore in verità. E... ma anche da Domenico De Francesco, che ci ha chiesto a un certo punto come andava. Oh, andava... grande Domenico. Andava che Arci si è mangiato quattro pizze. E, detto questo, vi diamo appuntamento ai prossimi episodi con Tycoons & Dragons e RipGDR. Continuate a seguirci, i nostri canali social, li conoscete ormai. Be podcast. Positive! Ecco, è per quello di RipGDR, il nostro podcast. E prossima settimana torna Umbra? Allora, fammi vedere il mio calendario. A parte che potremmo quasi tornare a due sessioni. Attenzione, allora, ragazzi, le due sessioni stanno per tornare. Aspettate che guardo l'agenda. Sì, ci sono. Si accettano scommesse sull'esito del tampone? Postate nei commenti. Volendo ci si può anche pensare a fare ogni tanto una sessione extra, se uno c'ha, però di qualcos'altro. Cioè, tipo, di far mangiare robe ad Arci. Che tipo vuoi incettare? Sì. O di far mangiare robe ad Arci, o che ne so. Io invio un di 6 pizze ad Arci. Uno e due ritiri, eh. Ascoltami. Ho fatto 5. Per non saperne leggere né scrivere farei la maledizione. Ui. Perché sono incastrato bene con le trasferte. Attenzione, back to back rischio, eh? Quindi attenzione, perché l'avete sentito? Da mercoledì fino a martedì sono in remoto, quindi non devo andare da nessuna parte. Va bene, dai, approfittiamo di questo trend allora, se riusciamo. Poi in realtà se non si riesce di lunedì penso possiamo cambiare giorno, tanto se non sbaglio anche Vezza ha le sere libere adesso. Adesso sì, giusto da vedere magari quando gioca la Virtus, ma sì. Ma no, certo, però che tanto comunque non posso andare a vedere, però per cui quindi comunque... Anche voi avete finito con gli allenamenti, immagino. Noi siamo bloccati. Comunque grazie per averci seguito, alle prossime sessioni. Vivi sezioni con Tycoons & Dragons, Rip GTR, Maledizione di Catta e tutti i nostri amichetti. Cioè, in teoria si possono allenare i professionisti. E i commenti di Giulio e professore arrivano dopo un po' di tempo. Cari ascoltatori, noi andiamo a dormire, voi restate collegati per i commenti di Giulio. Di arrivano 46. Va bene, grazie a tutti per averci seguito e alle prossime con Tycoons & Dragons e RipGDR. Ciao.